Carissimi amici di Runtime, benvenuti anche questa sera su Everything Live, ore 21, forse qualche secondo un po' in ritardo con me, Simone Pizzi, c'è sempre Michela, ciao Michela. E quindi? Dai, e quindi, deve essere forse, e quindi si parte con e quindi, è una tradizione oramai quasi consolidata. Abbiamo un puntatone questa sera, aneddoti, racconti, cose, magari un po' ridiamo, un po' riflettiamo, che è sempre la cosa migliore. Però noi prima di iniziare volevamo fare un piccolo pensierino, perché insomma c'è una ricorrenza oggi, Michela, sì. Vuoi dire tu? Oggi è l'anniversario della morte di Vittorio Zucconi e questa piccolissima radio che nasce da IPN e diventa, anzi nasce da Di Tutto un Podcast, diventa IPN e poi diventa Runtime Radio. Tutte queste trasformazioni. E siamo sempre noi. E noi un giorno l'abbiamo intervistato e è forse l'intervista più bella che ricordiamo e la chiacchierata più bella che ricordiamo, soprattutto Simone, perché è lui che l'ha intervistato. Sì. E quindi il nostro pensiero va a Vittorio Zucconi, che comunque ci manca tanto, e sarei molto curiosa di sapere lui come avrebbe commentato questo periodo di merda. Beh, fortunatamente no. Però insomma, per ora se l'è risparmiato. Poi adesso fortunatamente o no, non lo so. Bene, allora ragazzi, prima di iniziare, piccolo spot. Ovviamente si tratta di uno dei quattro podcast di Leo Vargion che fanno oramai parte di Runtime Radio e che prima erano indipendenti e che finalmente insomma fanno parte del nostro gruppo, e siamo veramente felici insomma di avere tutti e quattro le trasmissioni all'interno del nostro piccolo net. Quindi sentiamoci lo spot di Morfeo. Dormiglioni di tutto il mondo, unitevi, questo è il podcast per tutti voi all'ascolto, per tutti voi che... cosa? Beh, ah sì, dicevo, questo è il podcast che fa per voi, per tutti voi che siete al volante, o in manovia, o in ufficio, o in fila alle poste, o... Eccolo! Insomma, per tutti voi che vorreste tanto un morbido cuscino su cui appoggiare la testa, ma che volenti o nolenti dovete restare svegli, perché... La vita è difficile. Oh, vabbè, finisci tu. Morfeo, il talk show per dormiglioni con cui restare svegli. Su Runtime Radio. Ma dai, svegliati. Che figura ci facciamo? E ok, quindi Morfeo, anche questo è un podcast che dovete assolutamente ascoltare, cercate Spreaker, cercate Runtime Radio oppure andate su www.runtimeradio.it e trovate tutti quanti gli spot, anche se il sito è ancora in aggiornamento. Allora Michela, questa sera partiamo da un ospite che abbiamo già avuto la scorsa settimana, con il quale abbiamo fatto belle conversazioni, anche se lui era inizialmente un po' timoroso perché pensava... Ah sì? A me non mi è sembrato per niente. Lo so, però lui partiva un po' così, ma non lo so, poi non vediamo perché. Però invece poi dopo è partito a ruota libera. Non so se è stato l'alcol o no, però giustamente abbiamo... È partito talmente tanto bene che ci ha portato dentro... Altri personaggi, altri racconti che stasera... L'alcol. Antonio Iannone, ciao caro. Ciao ragazzi, ciao Simone, ciao Michela. Bentornato. Sei alla terza esperienza Runtime tu, perché oltre alla puntata che abbiamo fatto proprio con te, poi hai provato a partecipare a Runtime by Night, però a una certa... non so se il computer o tu siete andati via. Sì, l'ultima, ma anche l'altra volta sono stato, quindi due volte su Runtime di notte. Oh, ah, sì. Neanch'io ci sono riuscita a partecipare a tutte queste puntate della serie. Ma come ricordavo, figura, insomma. No, poi sabato scorso sono collassato proprio di pari passo col computer. Ah, perfetto. Allora, parlando durante la settimana con Antonio, ci ha detto: guardate, ragazzi, c'è un personaggio che dovete assolutamente conoscere. E noi capirai, cioè, dici un personaggio che dovete assolutamente conoscere, già eravamo pronti. E si tratta di Gianluca Castaldi. Ciao Gianluca. Ciao. E benvenuto soprattutto. Grazie, grazie. Ho sentito parlare molto di voi. Ah sì? Male spero, perché no, non vale la pena. E Gianluca, allora Antonio ci ha presentato insomma, la tua figura come quella di un personaggio un po' particolare, no? Nel senso che c'ha già di suo anche una bella storia dietro, insomma, no? Quindi un cammino verso, insomma, missioni, esperienze che poi danno sicuramente magari maturato anche delle convinzioni, insomma, hai sviluppato poi sicuramente tutto un tuo percorso. E noi siamo già curiosi di questo, cioè già siamo curiosi di capire chi sei tu come personaggio. Da dove vieni e dove sei andato? Non dove sei arrivato, ma dove sei andato. Allora, è difficile. La storia parte molto bene, nel senso che io sono il 12° di 14 figli. Ulla Peppa. Oh. Nato a Milano e... genitori molto impegnati nel sociale da sempre. E, niente, io poi ho finito, mentre studiavo facevo varie cose, alla fine la mia prima esperienza è stata raccogliere pomodori a Foggia con gli africani a 17 anni e poi sono partito per il Sudafrica come missionario. Sono stato lì un po' di anni, lavoravo e vivevo in una baraccopoli e niente, poi ho viaggiato un po', Zimbabwe, Mozambico, Ghana, Belgio, allora, Repubblica Ceca. Intanto uno si domanda come fa un ragazzo di 17 anni a finire, cioè nel senso perché sai che i ragazzi, insomma, l'adolescente di oggi magari pensa, cioè non pensa, dice vado a cogliere i pomodori con gli africani in Puglia, giusto? In Puglia mi hai detto? A Foggia. Sì. A Foggia. Sì. Okay. Si chiamava, mi ricordo ancora, Borgo Segezia. Ok, come ci sei finito a questo punto di partenza? Niente, ci sono gli adolescenti strani, uno di quelli. Ho pensato allo stesso termine, anche se poi in realtà non c'ha manco senso, però vabbè, comunque sì. Siamo in radio, non volevo dire coglioni. Ok. Io ho sempre stato una persona molto curiosa, sin da giovane, e niente, ero affascinato, ripeto, ho avuto un'educazione particolare, i miei genitori molto attenti alle tematiche sociali, mi incuriosiva. No, ma poi non è che non mi divertissi, mi divertivo un casino, solo che non lo so, mi interessava capire tutto. Sono sempre stato una di quelle persone che veramente i bambini che infilano sempre il dito nella torta, ero io. Cioè, sempre stato così. E siccome avevo conosciuto vari africani senegalesi sul lungomare di Castiglioncello, dove andavamo da piccoli al mare, e alcuni di loro andavano anche a Foggia a raccogliere pomodori, ma va colpito da piccolo sta storia, e alla fine ho voluto provare. Cioè, tu parlando con loro praticamente, cioè tu interagivi praticamente con questi ragazzi, e a un certo punto hai detto: vabbè, però se questi fanno sta cosa la voglio provare a fare pure io. Capire, è interessante. Come... E i tuoi genitori che hanno detto, per esempio, quando. Cioè, no, ma... mi hanno sempre incoraggiato su tutto. Guarda, ti ho detto, guarda, che ho avuto un'educazione molto bella, ti confesso. E ti racconto, io vado per aneddoti, sono fatto così. Sì, vai. Quando ho compiuto 13 anni, mio padre ha fatto con me quello che ha fatto con tutti i miei fratelli. Mi ha messo davanti il giornale a 13 anni e mi ha detto: da oggi dovresti cominciare a leggere il giornale. Quando gli ho chiesto il perché, lui sa cosa mi ha risposto. Mi ha detto: ogni anno al mondo 6 milioni di persone muoiono di fame. Magari tu non farei niente, ma è tuo dovere saperlo. E quando cresci così non riesci a essere indifferente, comunque vuoi capire. Beh, certo, è particolare come non so se ci ho avuto lo stesso feedback con i miei genitori, però chiaramente è già un qualcosa, no? Comunque ti dà un incipit. Senti, quindi tu quando, vabbè, hai preso e quindi sei stato, dico, quantomeno non incoraggiato, ma quantomeno non sei stato, non ti è stato, come posso dire, creato nessun tipo d'ostacolo in merito a questa cosa. E come esperienza in sé, com'è stata? Cioè, perché questo poi mi interessa, visto non tanto con magari gli occhi di oggi, quanto con quello che pensavi allora quando eri lì, in quella situazione lì. Ero curioso, ti confesso. Ero curioso più che altro, e era un mondo nuovo, era un mondo che non conoscevo ovviamente, e per la prima volta fare parte di quel mondo, di quella porzione dell'umanità che di fatto viene trattata di merda. E quindi c'era anche qualcosa di eccitante, devo dire la verità, mm-hmm. perché per la prima volta non mi sentivo un privilegiato. Senti, non potevo parlare, perché io, facendo finta di essere rumeno, se sapevano che ero italiano non mi davano lavoro, facendo finta di essere rumeno e io non parlando ovviamente il rumeno, io stavo sempre zitto. Quindi se arrivava un rumeno e parlava con te, tu che facevi? Niente, per fortuna non è mai successo. Botta di culo incredibile. No, poi avevo, quando ero giovane, adesso sono pelato, però quando ero giovane sembravo un po' rumeno, quindi no, ma questa cosa un po' mi incuriosisce. Quindi praticamente tu sei andato lì, anche chi ti aveva dato il lavoro non pensava che tu, e anche le persone con le quali lavoravi, quindi non sapevano chi eri. Erano quasi tutti africani, c'erano dei polacchi ai tempi, dei polacchi. C'era questa tratta, mi ricordo, che facevano, c'erano delle compagnie che organizzavano il visto turistico di 3 mesi dalla Polonia, e li portavano in Puglia proprio per la raccolta dei pomodori. Ah, bel turismo! Sì. Però facevano, loro dicevano che facevano molti soldi, più in 3 mesi, quei 3 mesi in Puglia, che molti mesi in Polonia. In Polonia, certo. E io comunque non è che c'era molto da interagire, cioè la mattina si andava alla piazza e ti tiravano su. Io comunque sono sempre stato uno con le spalle larghe. Voi, vabbè, non mi potete vedere, sto in radio, ma io sono un torello, sono grosso. C'hai le spalle larghe, lo diciamo noi, che almeno. Sempre stato grosso, quindi comunque quelli sono i criteri con cui ti scelgono. Eh beh, certo, dice, la robustezza comunque aiuta. Resistenza. Quindi ti trattavano anche male. Poi non ho più. Poi non ho. No. Quando sei grosso come me, ti trattano tutti bene. No, però sono tornato, non ho più voluto vedere un pomodoro, ma per 9 mesi. Beh, ci mancherebbe, certo, non capisco. Però vabbè, comunque. Hai detto, scusa? Tante cose, proprio. Ho scoperto tante cose anche della produzione, proprio a livello tecnico, non avevo mai fatto la raccolta. Cioè, tipo, se ci sono quelli, diciamo, i padroni che ti fanno sradicare la pianta, ci vuole molta più forza. Ti fanno sradicare la pianta e poi la scuoti sul cassone e cadono automaticamente i pomodori. Mentre sono quelli, ci vuole molta più forza, che sradicare le piante, devi sradicare le piante in continuazione. Mentre quelli un po' più infami non vogliono che sradichi la pianta, così la pianta produce altri pomodori, ma devi raccogliere un pomodoro alla volta, ovviamente ci vuole molto più tempo. Quindi uno guadagni di, con uno guadagni di meno, ma ti affatichi di. Guadagni di meno, ma ti affatichi di meno, tra virgolette. Con l'altro è molto più faticoso, ma andavi più veloce. Senti, prima di passare allo step successivo, l'ultima domanda, tu comunque dici, io ho conosciuto delle persone, degli africani, e sapevo che molti di loro facevano questo tipo di esperienza. Io sono andato a fare questa esperienza per l'esperienza in sé, no? Quindi non per gli amici, nel senso, non è che c'erano dei contatti. No, volevo capire. Volevi capire. Guarda, prima ti ho detto. E che hai capito da sta cosa? Tante cose. Ma come ti dicevo. È difficile, no? Lì, come ragazzo, cioè come 17enne, cosa ho capito? Ho capito che c'è tanta ingiustizia, che io ero sempre fatto parte di un mondo molto privilegiato, di fatto. Però mi ha fatto capire quali erano le mie priorità nella vita. È difficile, dopo aver visto certe cose anche da ragazzino, far finta di non averle viste, certo. E da lì tutto è cambiato, ovviamente. Forse anche poi la mia scelta con il missionario, tutto quanto. Mi sono detto, magari non farò nulla, cioè non cambierò nulla, ma almeno il metro quadrato intorno a me voglio cambiarlo. Senti, quindi tu praticamente da questa esperienza poi tu hai deciso di partire per l'Africa come missionario laico? Ero religioso, missionario comboniano, però mi sono fermato prima del sacerdozio. Ah, quindi tu hai fatto, cioè, quindi sì, un percorso... Sì, ho studiato anche teologia, filosofia, mentre facevo il missionario, lavoravo come missionario. Poco abbiamo avuto padre Gianluca. Per poco. Avete rischiato di trovare un padre Gianluca. Ma hanno rischiato loro, mi sa, eh? Sì, li va di brutto. Non che ci sia andata granché meglio alla fine, però. No, questo mi incuriosisce. Quindi tu comunque da quel cammino che tu hai intrapreso, ti eri avvicinato anche a un altro percorso che era quello della religione e l'avevi associato. Ma è quasi, stato, no? Per caso, perché ho letto Teologia della Liberazione di Gutiérrez, che praticamente unisce l'analisi marxista alla teologia biblica, che a me entrambe erano la mia passione. Ah, quindi un catto comunista, come dicevano una volta. Quindi Gutiérrez, esatto, esiste Gutiérrez, veramente. Sì, un catto comunista. Poi comunque è andato avanti, partito con il sacerdote, eccetera. Alla fine ho deciso di continuare però come laico, perché la vita religiosa non faceva propriamente per me. Ho pensato fosse meglio essere una brava persona che un pessimo sacerdote. Ok, questa è pure una scelta di coscienza anche, insomma, notevole, anche se tu dici magari non ti calzava per tantissime altre ragioni, che poi non è che dobbiamo andare a investigare. Guarda, pure... se tutti pensano che la parte più difficile sia il voto di castità, che comunque è una botta. È il voto di obbedienza quello più difficile, fidati. Cioè, nel senso che deve essere così. Diciamo che il voto di obbedienza è complicato comunque, perché devi sempre sottostare a un superiore che ti dice quello che devi fare. E l'obbedienza non è la mia prima virtù, scusami, lo dico. No, perché noi a 15 ci trovi tranquillo, quindi figurati, insomma, non mi sembri il tipo, ecco, diciamo così, anche se non ci conosciamo, però sai, pure alla livello così di empatia iniziale, così non mi sembra. E quindi tu, vabbè, quando sei stato in Africa, al di là del percorso religioso, all'inizio che cosa facevi? Guarda, è stata l'esperienza che mi ha cambiato di più al mondo, ovviamente, nel senso che io mi sono trovato in questa baraccopoli a lottare per il diritto alla terra, soprattutto perché lì c'erano continuamente tentativi, lì le chiamano eviction, di buttare giù le baracche, e quindi mandavano la polizia, si organizzavano comunità di base per manifestazioni, per evitare che questo accadesse, perché quelli se perdevano le baracche perdevano tutto, la casa, tutto quanto. E mi sono trovato lì, tra l'altro l'unica mozzarella in una baraccopoli di ostriche, veramente. E ancora, tra l'altro, come veniva Foggia, doveva essere forse il riff della mia vita. Però mi ha cambiato tantissimo, perché io all'inizio ero andato lì pensando di voler cambiare le cose, voler aiutare, sai, il complesso del missionario che vuole sempre salvare il mondo. Quando ho smesso di volerlo fare, ho cominciato veramente a essere utile. Cioè, quando ho deciso che, tra virgolette, gli africani non aspettano il salvatore che viene dall'Europa, lì loro hanno cominciato ad apprezzarmi di più e paradossalmente anche a seguirmi di più con quelle che erano le mie idee. Un concetto un po' complesso, ci vorrebbero 30 anni di trasmissione per spiegarlo. Beh, questo lo immagino, però diciamo che anche storicamente noi prima andavamo a portare un messaggio e poi andavamo a fare qualcosa, no? E quindi già questo, no, l'Occidente, cioè voi dice la storia dei 500 anni, no? Di questo tipo di discorsi, dove praticamente andavamo a portare quella che era la nostra verità piuttosto che a dare un supporto, no? Quindi, sì, insomma, ecco, penso alla fine io vedo ancora oggi tantissime missioni, no? Quindi questo cercare di fare questo discorso dell'evangelizzazione e tutto quanto, però poi all'atto pratico, no, c'è sempre un sacco di dubbi, no, su quello che realmente tu insegni a quella popolazione, o che tipo di supporti puoi dare, o come la puoi emancipare, perché poi tante volte è anche questo, no? Cioè, fa guarda, ti dirò una cosa, la mia esperienza da missionario, non c'è nulla di più offensivo che aiutare qualcuno che non ti ha chiesto aiuto. È umiliante. Okay, esatto. E questo è interessante, vedi? Perché noi tante volte riprendiamo, partiamo, andiamo a dare una mano a qualcuno, ma chi ti ha cercato? Tu dici. Grazie. Quindi quando ho smesso di farlo e ho cominciato semplicemente a vivere lì e a lottare come gli altri per il diritto alla mia baracca, ho cominciato veramente a vivere l'esperienza pienamente e poi a, perché nel momento in cui tu ti levi dal piedistallo, tutti ti trattano in maniera più uguale, capisci meglio la cultura che ti circonda, che nel mio caso è la cultura Zulu, perché erano tutti Zulu. Ho finalmente imparato lo Zulu, che non è cosa da poco, e questa esperienza mi ha cambiato tantissimo anche oggi nel mio lavorare nel campo dell'immigrazione, perché comunque noi tendiamo sempre, io dico sempre che quando si parla di immigrazione in Italia c'è sempre o un approccio ideologico, sono una risorsa, sono tutti buoni, o un isterico, e vai, la criminalità, gli sbarchi, cioè non c'è mai un aspetto realistico, vuol dire sono persone, punto e basta, no? Ci sta quello in gamba, ci sta lo stronzo, non è che dobbiamo stare lì, l'immigrato non è una teoria da dimostrare, è una persona. No, infatti, vabbè, questo purtroppo, noi in questa fase storica stiamo vivendo un momento triste e drammatico proprio da questo punto di vista in Italia, proprio come dignità anche nazionale, se proprio vogliamo andare a, cioè, perché diciamo che l'Italia forse nel bene o nel male, facendo nel modo sbagliato, però insomma diciamo che noi, questo è un paese che per un periodo di tempo ha accettato, faceva soprattutto dal campo, dal punto di vista degli asili, dell'asilo politico, no? Quindi c'era un certo tipo di accoglienza, roba genere. Poi improvvisamente sono bastati 20-25 anni di diseducazione civica e di mancanza di rispetto verso gli altri per creare una situazione che oggi è veramente imbarazzante, che è imbarazzante passeggiare per strada da noi, cioè nel senso... Sì, ma guarda, un altro aneddoto, no, perché mi è successo ieri mattina. Stavo camminando, stavo andando con mia moglie a una visita medica, mia moglie è africana e del Ghana, e camminavamo per strada a Caserta, e un italiano che camminava in direzione opposta, quando è arrivata alla nostra altezza ha detto: ma perché cazzo non vi sposate nel vostro paese o con quelli del vostro paese, così. Io non mi sono detto: ma devo chiedere permesso a te prima di sposarmi, no, cioè io credo che il vero problema in Italia è che purtroppo, un po' per i social, che dietro i social c'è sempre quell'anonimato dove la gente si sente libera di scrivere e dire quello che vuole. Ma e anche se non c'è l'anonimato, comunque è sempre una protezione, sì, sì, lo schermo, no? Cioè, nel senso... Sì, sì. E poi perché appunto certi politici hanno, tra virgolette, legittimato certi comportamenti. C'è stato uno sdoganamento della cattiveria incredibile. Sì, sì. Cioè, sì. Prima per una legge non scritta di civiltà, anche se pensi certe cose ti vergogni a dirle, perché dici ma non passerò da stronzo, meglio stare zitto. E invece oggi tutti si sentono liberi, cioè anche il passante che ieri ha visto me e mia moglie che camminavamo mano nella mano. Voglio dire, a me sta cosa mi ha colpito tantissimo. Oppure mi ricordo qualche tempo fa, oggi in Italia chi lavora nell'immigrazione è peggio di un manco fosse un mafioso, no? Voi fate i soldi sui migranti, nessuno chiede a un medico se fa i soldi sui malati, voglio dire. Il lavoro nel campo dell'immigrazione, sì, ho uno stipendio, non devo chiedere scusa a nessuno. E ricordo che tipo un annetto fa, io vado sempre in piscina, siccome sono una persona normalissima, alle 6 del mattino, no? Siccome alle 6 del mattino siamo sempre quattro, quanti saranno gli imbecilli che alle 6 del mattino si buttano in acqua, sempre quelli, voglio dire, dopo un po' no, tenti di attaccare bottone. E nei spogliatoi uno mi ha chiesto, ma che lavoro fai? Ha attaccato un bottone. Come gli ho detto che lavoravo nell'immigrazione, apriti il cielo. Nello spogliatoio si è aperto il dibattito di questi qua negli hotel, 35 euro. Sì, Ma sì. è stato allucinante, no? Ho preso atto, no? Quando ero adolescente io negli spogliatoi si prendeva per il culo che ce l'aveva piccolo. Adesso chi lavora nell'immigrazione? Vabbè, ce ne faremo una ragione, eh. No, no, ma questo è come hai detto te. In realtà, poi magari certe determinate situazioni in Italia, ma nel mondo in generale, magari ci sono sempre state, no? Cioè, comunque il becerume, la frase cattiva e via dicendo. Però, diciamo, c'era a livello sociale quella sorta di educazione collettiva, chiamiamola così, no? Quel senso, insomma, anche di pudore nel non esprimere determinate considerazioni o che addirittura facessero poi restare male un po' tutti quanti. No, oggi invece è tutto sdoganato. No, perché l'insulto è diventato istituzionale, no? Quindi a Sì. quel punto chiaramente cioè, lo fa Salvini, lo faccio pure io, no? Allora Negri de qua, Zingari de là e via dicendo, insomma, quindi questo è purtroppo un È dato di stato fatto, insomma. ministro degli interni, non è No, stato, cioè, no, se il ministro degli interni si ma permette di dire certe cose, voglio dire, perché io cittadino. questo. Ma si permette anche adesso? L'ultima volta che l'ho visto in televisione mentre si confrontava con non mi ricordo quel personaggio che comunque in qualche modo difende i diritti dei lavoratori Abubakar, Abubakar. Abubakar, grazie. Cioè, anche lì comunque è stato veramente scortese, cioè, vabbè, ma maleducato. quella è studiata E quella anche cosa, eh. Cioè, cioè, comunque sì. con il Salvini benestare. è un genio della comunicazione, Sì, sa ma molto, non dice mai una frase senza averla prima pensata. anche Sì, con no, il ma è studiata, c'è tutto un team dietro poi, cioè, nel senso che oramai l'abbiamo capito che il gioco è questo, però essendosi innescato sto meccanismo è difficile tornare indietro oggi, no? Cioè, nel senso, bisognerebbe fare un lavoro generazionale di ricostruzione di una cultura civica anche, no? Quindi che oggi è un po' complicato. Però magari poi ci ritorniamo anche a questi aspetti che sono più attinenti. Io ritornerei in Africa perché tu a un certo punto hai detto... ho trovato il modo di essere maggiormente considerato e stimato quando ho smesso di andare lì a dimotta, spiego io, insomma. Raccontacene un po' sta cosa che mi interessa, insomma, è curioso. Avrei tanto di quelle storie. Vabbè, quello che. Per esempio, guarda, ti racconto qualcosa un po' di divertenti, perché sennò sembra, parliamo solo di robe pacco. Finalmente cominciano a invitarmi alle feste, no? È stato troppo divertente, alcune feste veramente incredibili, ma soprattutto a un certo punto mi invitano a un matrimonio nella Baraccopoli. E questo era il matrimonio di una che, tra l'altro, ci aiutava, era una ragazza così che per tipo un mese era sparita e non l'avevo vista, no? E quando l'ho vista, quando finalmente sono andato, l'ho trovata, io non sapevo, ignoravo, capito, che nella loro cultura, prima di sposarti, no, praticamente ti legano in una capanna, no, per purificarti, tutte queste cose qua, e praticamente nessuno ti deve toccare, il primo deve essere il marito che ti tocca una volta uscito da quella capanna. E comunque alla fine, cioè io arrivo lì nella parte della Baraccopoli dove c'è il matrimonio, con tutti gli invitati che sono arrivati da tutta la parte del Sudafrica, parenti, famiglie allargate, eccetera, eccetera. Io la vedo, Zanele si chiamava, ma cioè Zanele, come stai? Sei sporca qui? E gli levo della polvere bianca anche sulla fronte, no? Allora, un bordello, allora, matrimonio posticipato di un mese. Tutti che mi odiavano, il marito che mi voleva fare un culo così, no? Però è stata un'esperienza. Almeno dice, beh, almeno mi sono integrato. Quando vogliono pestarti, vuol dire che ti considerano un pari. Ah, vabbè, quindi Se no, in quel momento eri uno di prima sei loro. solo l'uomo bianco, non si tocca. Hai rotto il ghiaccio, hai rotto Ho lo rotto il ghiaccio, sì, bravo. Beh, pensa al marito che ha dovuto rimandare un mese, non era Un proprio il mese in ghiaccio quello che hai rotto, matrimonio. insomma. Sì, no, ma infatti non è che fosse contentissimo, Tutto sommato è anche rischiato, dai, volendo, no? No, infatti, meno male che sono grosso, dicevo. Insomma, loro erano tanti, però, diciamo così. Esatto. Vabbè, quindi quel periodo, ecco, qual è stata la sensazione più positiva, no? Dice, ok, veramente, anche se solo nel mio piccolo, comunque ho fatto veramente qualcosa. È stato quando sono tornato. Io lì, nella baraccopoli, molti nascono bambini ma non possono essere registrati anagraficamente, non vanno a scuola, quindi, perché sono squatters, se li si dice squatters, come occupano abusivamente, eccetera eccetera. Quindi avevamo fatto quello che viene chiamato un tutorial school, una baracca grossa dove si insegnava a leggere e scrivere queste cose qua. Chiaramente sono partiti dagli adulti, poi bambini, eccetera eccetera. E non potevo andare a scuola, quindi abbiamo fatto una scuola parallela per chi non poteva andare a scuola. Certo. Una delle esperienze più belle della mia vita è stato tornare dopo qualche anno e vedere che gli insegnanti erano i miei primi studenti. Bene, sì, quindi tu dici, nel vedere l'evoluzione, già questo è... Quindi c'è qualcuno che magari, che ne so, che tu sappia, ha fatto magari... Che ne so, un percorso, magari è diventato, che ne so, un medico, metti ipotesi. No, non sono così bravo. No, vabbè, però magari. Però, cioè. No, però io uno sì, a dire la verità, anche se purtroppo poi insomma poteva andargli meglio, nel senso che tenere i bambini a scuola è facile, butti un pallone, fanno casino, alzano polvere. Gli adolescenti è un po' più difficile, perché per un adolescente che cresce in una baraccopoli la criminalità è una cosa che tenti di posticipare il più possibile, evitarla è difficile, e l'unico modo per tenerli era tramite la musica, perché insomma tutti vogliono diventare rapper, no? E quindi io insegnavo musica, insegnavo tecniche di registrazione, facevo i beat, li facevo registrare, in questo modo li tenevo, e insegnavo ad alcuni, a chi la chitarra, a chi la tastiera, pianoforte non ce l'avevo ovviamente, la tastiera eccetera eccetera. E c'era un ragazzo, Faio, che era veramente un talento nato. Io dopo 2 anni non avevo più nulla da insegnargli a livello di tastiera, pianoforte, era diventato molto più bravo di me, era proprio un talento nato. E so che c'era stato un jazzista, non mi ricordo il nome, svizzero, che era stato in Sudafrica un po', che se l'era preso con sé, e come suo pianista. Poi purtroppo però non se l'è portato dietro in Svizzera, perché aveva scoperto che era sieropositivo, e quindi non lo so. Michela, c'è qualche domanda? Bello sapere che alla fine un talento musicale è nato grazie a me. Direi che è un bel punteggio, insomma, per quanto riguarda i punti vita, stai già un passo avanti. Noi che abbiamo fatto? Noi abbiamo fatto diventare tanti podcaster. Noi abbiamo costruito podcaster nell'arco di 10 anni, tutta gente a fare podcast. Vabbè, io ci ho pensato molto in questo periodo, non so voi, sapete che in questo periodo di quarantena mi sono detto, ma quando, come si chiamava, Isaac Newton nel 1663 è stato messo in quarantena per via della peste bubbonica, ha approfittato della quarantena per rivoluzionare la teoria ottica, il calcolo moderno e sviluppare la teoria della relatività, della gravità. Cioè, mette un po' a disagio, voglio dire. Io ho imparato a fare la pasta frolla, quindi faccio testo. Vabbè, ognuno... nell'ambito delle proprie potenzialità, ma frutta Newton proprio faccio. Ma noi abbiamo riflettuto molto durante un po' di sensi di colpa, la prima cosa che mi è venuta in mente, sono io che cerco di fare la pasta frolla mentre Newton fa tutta sta roba, insomma, quindi mi sono sentita piccola, però... Diciamo, hai voluto contribuire anche tu in qualche maniera. Vabbè, ma noi perché abbiamo riflettuto molto sul fatto che questo periodo di de pandemia, quindi tutto l'inizio del lockdown in Italia e via dicendo, dentro di noi, la parte più romantica di noi, quella che un po' rievoca il quando eravamo ventenni, ancora ci credevamo, diciamo così, e ci ha fatto magari riflettere al fatto che questo fermo può essere un punto di riflessione, no? Può essere una pausa che è necessaria e quindi non è che è benedetta come situazione, però dato che c'è possiamo approfittarne per fare una riflessione anche dal punto di vista sistemico, cioè nel senso in generale, no? Su quello che è la nostra società, il perché la stessa pandemia ci ha creato. Guarda, poi tutti questi problemi, no? Tu mi hai chiesto dell'Africa, ma io ho sviluppato un mio pensiero a riguardo. Noi abbiamo una, generalmente io ho avuto la fortuna di viaggiare molto, e non solo viaggiare ma di viverci, perché sai, se vai per un mese in Kenya sei un turista, appunto. Però sai, vivere anni e anni, poi viverci insieme ancora oggi, tanto essere sposato anche una donna africana, noi abbiamo una visione del mondo estremamente eurocentrica. E non ci rendiamo conto che il nostro stile di vita se lo può permettere il 20% della popolazione mondiale. Se cioè, dice il, bene. La maggior parte dell'umanità, come dire, cioè a 17 anni già lavora, a 20 anni già ti sposi, e io credo che noi abbiamo uno stile di vita comunque squilibrato. Cioè, non c'è più questa è una mia riflessione sulla base di quello che ho visto in giro per il mondo, non c'è più quella relazione diretta tra età biologica e età sociale, diciamo così, no? Perché abbiamo questa fase dell'adolescenza che un tempo doveva essere la fase della pubertà, ma oggi dura 15 anni l'adolescenza, no? E che sbilancia tutto, e io credo che la natura ogni tanto manda qualcosa per riequilibrare le cose. Io ci l'ho pensato, perché diciamo, io non ci vedo una coscienza dietro, però diciamo ci vedo il fatto che alla fine in qualche maniera la natura, il mondo, quello che è, comunque in qualche maniera ti restituisce un po' un controinput, diciamo così, no? Sì, a quello che dire, stato... sì, alla fine purtroppo, con tutto rispetto per le vittime, è stata una tragedia. No, assolutamente, certo. Colpiva soprattutto anziani e persone deboli. Darwin l'ha detto centinaia di anni fa, sì, cioè noi siamo così abituati comunque a programmare tutto, a tenere tutto sotto controllo, poi ti arriva un virus, una cosa che è qualcosa di nuovo e manda in tilt tutto quanto, ti fa capire anche quanto il nostro sistema sia anche un po' arrogante verso la natura o verso quello che dovrebbe essere la vita. No, appunto, dicevo, quindi poteva essere un momento di riflessione, e secondo me poi alla fine, durante il periodo di silenzio, quando la gente cantava dalle finestre, quel senso di comunità, no? In qualche maniera un po' la sensazione ce l'hai avuta, poi come finisce un po' e si rialza il rumore, ritorna proprio lo stesso rumore di prima. Cioè, è lo stesso identico rumore di prima, non è cambiato niente, non abbiamo imparato niente. Come tutte le batoste nella vita, non è automatico che ti facciano crescere, devi accompagnarle a una riflessione e a metterti in discussione, sennò è solo un calcio nel culo della vita. Quindi. Forse è capitato nel momento storicamente sbagliato. Ma nelle zone d'Africa a cui sei legato per vari motivi, vite passate, vite presenti, eccetera, c'hai un diciamo così, un'immagine di quello che è il coronavirus in Africa adesso? Perché io me lo chiedo spesso, però non riesco a trovare informazioni reali. C'è stato ovviamente. C'è stato anche il lockdown in vari paesi, in Ghana, in Sudafrica, eccetera, eccetera. Meno morti che da noi, però tieni conto che lì l'aspettativa di vita è anche più bassa. C'è gente che muore, tra virgolette, per infezioni molto più certo. Gravi. Quindi poi vai a vedere se è morto di coronavirus o se è morto esatto, d'altro, no? E quindi insomma. Poi comunque anche se non sei nella capitale, in Ghana, se non sei nella capitale o in una delle grandi città tipo Kumasi, non è che hai dei termini tamponi per capire chi è coronavirus, chi no. Certo. Quindi comunque i dati sono quelli che sono. Vabbè, poi diciamo che in tanti paesi africani hanno visto epidemie ben peggiori, certo. Insomma, poi... diciamo che Antonio l'altra volta diceva il fatto che si era un po' fatta questa idea che le persone di colore fossero più immuni rispetto alle persone, cioè a tutto il resto ovviamente della popolazione, no? E che anche questa cosa aveva creato anche fra di loro un po' una sorta di autoleggenda metropolitana, no? Cioè che loro stessi si sentivano più immuni. Tu che hai percepito questa cosa? Chiaramente non sono immuni. No, vabbè, certo, quello... L'idea che mi sono fatto è che avendo molte più, tra virgolette, sviluppato un sistema immunitario per forza di cose, se cresci in Africa, certo, comunque, certo. Sistema immunitario più resistente, sicuramente hanno resistito meglio anche al coronavirus. Tieni conto che d'altro canto noi cresciamo in una società, io ripeto, il 12esimo di 14 figli, c'ho un sistema immunitario forte per forza di cose, perché come si dice in Francia, con i controcoglioni, insomma, esatto no? Però oggi c'è gente che cresce sotto la campana di vetro, cioè non sterilizzano tutto, poi è ovvio che se uno che cresce sulla campana di vetro sterilizzato tutto, la prima volta che prende un virus finisce, certo. No, così voglio dire, oggi io, questa è una cosa che a me mi ha sempre colpito, come cresciamo i bambini. Io faccio sempre il paragone di come li vedevo crescere in Africa, no? In Africa i bambini crescono, cioè crescono naturalmente, non è che oggi c'è questa cosa, ma per caso, per puro caso notavo tutte queste, per esempio, i biscotti per i bambini, il ferro, sono tutti col ferro, no? Tutte cose integratori, tutte queste cose qua. Il bambino per natura c'ha tutto quello che deve crescere, no? Cioè, perché devi mettere il ferro nei biscotti? No? Poi ti dicono che ferro ovunque, poi ti dicono che il bambino è estetico. Certo, gli fai cagare le incudini, cioè, non è ovvio che poi non... i biscotti li devi vendere. Ho capito che li devi vendere. Vabbè, questo è come il famoso latte con l'omega, cioè col pesce dentro, no? Che dice, ma se io sono allergico al pesce non posso bere il latte, poi, no? Sì, ma a questo punto potevamo dargli, ma da mangiare i chiodi frullati facciamo prima. Ah, il concetto è quello. No, ma in generale è così. Io conosco un sacco di amici, cioè da amici, persone, no? Che è giusto che se ti lasci un bambino ti cambia la vita, ma non ti deve cambiare come persona. Lo so, no, questo è un discorso. Guarda, non lo voglio aprire questo discorso, perché con noi poi. Luca, parli con me, sì. Che ho avuto un figlio a 18 anni, quindi insomma. È cresciuto proprio a casaccio, no, selvaggina è cresciuto, insomma, vabbè. Comunque no, ma più che altro perché noi di questo tema purtroppo ne abbiamo parlato tante volte in tante situazioni e anche in maniera molto forte, no? Molto critica, perché poi purtroppo anche questo è un problema di questa generazione, ma va bene. Senti, io ho un po' di domande, però volevo fare un attimo uno stacco, ci sentiamo un attimo un vostro brano, così quando ritorniamo parliamo anche di questo, cioè parliamo pure di questa cosa qui, però questo prima progetto musicale, cioè delle domande, ce lo vuoi introdurre tu il brano che adesso ti dico quale ci sentiamo? Ci sentiamo come primo brano Istinto alla rivoluzione. Che ci dici in merito a questo brano? Così poi dopo tu dici, vabbè, però dovrei spiegare anche il progetto. Al progetto ne parliamo dopo. Allora, il brano, per spiegarlo, perché fa ridere come è nato, fa veramente ridere come è nato, te lo devo spiegare quindi dopo il brano. Ah, ok, perfetto. Allora ce l'ascoltiamo e poi dopo il brano, sì, ok, perfetto. Sì. Con due palle così e non che sia del PD. Io voglio un comunista, sì, ma un vecchio stile, pinazzato sempre in piazza con un sacco da dire. Ma comunista oggi non si sa cos'è. Si dichiara di sinistra ma non sa perché. Lui è radical chic che non fa mai male. boicotta all'occorrenza, compra eco solidale. Visione globale, una missione sociale. L'acqua goccia a goccia pure quando va a pisciare. Molti slogan zero analisi, ma il mostro di coerenza. Aprire il frigorifero è un esame di coscienza. Non mangia mai dal normale italiano. Lui è vegetariano, anzi oltre vegano. Lotta per la vacca che soffre nella stalla, ma non per l'operaio che a spalare la sua merda. Non è rivista, lui non segue la massa. Ha sempre un'opinione alternativa quanto basta. È di sinistra, ecologista, femminista e pacifista. Qui non urla mai, cerca dialogo, che poi ci parli insieme e fai monologo. E a questo punto io non so che dire. Cerco un comunista ma lo cerco in vecchio stile. Tasche piene della classe borghese, che non parli di coerenza ma di rivoluzione. Se ecosostenibile è la sua militanza, è un problema che si pone dando fuoco a un fascista. Forse sono banale, poco alternativo. Muovo in chiare le ragioni, l'ideale in cui credo. Mi pianto una forchetta in una bistecca a sangue, leggendo le bombe se per la lotta di classe. Ho un istinto alla rivoluzione, impulso primordiale dentro me. Questa Italia tutta da rifare, dove tutto va a puttane, non trovo un perché. Dove tutto va a puttane, non trovo un perché. You say I'm illegal because I'm immigrant. Tell me who you are, we are image of God. Fuck the government, nigga, we play guilty. Fuck the parliament because they are too filthy. Great laws, I sit there alone, get a pepper soup. Because of their victory, many of us are victim. When you're moving forward, they try to pull you behind. It's so jungle, get ready to ramble. If I tell you my story, you only tell me you're sorry. I know where I'm coming from, I know where I'm going to. Every day on television, radio news, you only speak about negative side of my people. Cerco così una canzone per chi ascolta e mi capisce, ci si riconosce, capito, batte un colpo, piano piano risorge. Impulso primordiale ci scorre nelle vene, lavoratori sciopero, studenti nelle scuole, rifiuti di quartiere, migrante a Lampedusa, in piazza tutti quanti, in piazza finché dura. Ho un istinto alla rivoluzione, impulso primordiale dentro me, in questa Italia tutta da rifare. Questo è Istinto alla Rivoluzione, cari Foo Ground. Noi lo sapete che ogni settimana Runtime Radio sceglie un brano tra varie band emergenti, progetti sperimentali o qualsiasi cosa, e lo passa a rotazione su tutti quanti i podcast del network. Perché? Perché è una scelta che abbiamo iniziato a fare durante questo periodo di pandemia, in particolare quando facevamo praticamente due o tre, addirittura quattro live al giorno, e quindi a rotazione abbiamo cercato di dare spazio a tutte le possibilità. Insomma, quindi noi questa settimana stiamo passando proprio un loro brano, che non è questo che avete appena sentito. Questo è com'era, Istinto alla Rivoluzione. Aspettate, sì, mi è partita la cartella. Allora parliamo un attimo di questa cosa, perché è importante, perché Antonio, l'altra settimana appunto abbiamo parlato, abbiamo introdotto anche questa idea, questo progetto, abbiamo fatto sentire un brano, però giustamente dice, però Gianluca è forse che è un po' l'ideatore di questo motore, insomma, magari è il caso che ce lo introduci tu, così poi ci racconti anche in che maniera è nata la canzone che dicevi che comunque sì. Allora, io praticamente nel 2008, purtroppo strage di Castelvolturno, io appena arrivato, tornato in Italia, e c'è una forte voglia da parte dei migranti di raccontare la verità, perché all'inizio tutto era stato etichettato come strage per via di droga, quando invece erano tutti innocenti. E da lì io intanto avevo cominciato da qualche mese a insegnare musica ad alcuni migranti, e nasce l'idea di fare una canzone per raccontare la strage dal punto di vista dei migranti, cioè loro che si raccontano. Da lì, da un semplice laboratorio musicale, nasce proprio una band, e noi cominciamo poi da lì a girare l'Italia raccontando un po' il punto di vista dei migranti cosiddetti clandestini, in cui la clandestinità viene percepita non tanto come non avere i documenti, ma come uno stile di vita ai margini della società, borderline, eccetera, eccetera. E poi tutto l'impegno per i diritti lotta dei migranti per il permesso di soggiorno, eccetera, eccetera. Da lì nasce il laboratorio artistico Califu Ground. Negli anni abbiamo fatto varie cose, abbiamo lavorato anche colonne sonore di film, siamo stati al Festival di Venezia due volte. È stato molto bello vedere questi ragazzi africani al Festival di Venezia, invitati, voglio dire ufficialmente. E poi, insomma, con l'arrivo di Agostin, un comico nigeriano che è stato con noi per un po', abbiamo iniziato a fare anche teatro e anche fotografia artistica. Adesso abbiamo appena terminato una mostra che si chiama Storie di clandestinità, dove i migranti si autoraccontano con scatti fotografici. Questa è la storia del laboratorio, molto riassunto proprio al massimo. E quindi questo... scusa Gianlu, era No Heaven For Us, giusto? Sì, No Heaven For Us. Non so se l'abbiamo passato già qualche volta in radio. No, non l'abbiamo passato, ma lo passiamo dopo, perché ce l'abbiamo nella scaletta oggi. Ottimo. Ok. Niente, comunque noi girando ovviamente tutta Italia... Soprattutto giriamo un sacco i centri sociali, troviamo dei centri sociali molto in gamba, alcuni veramente che facevano cadere i coglioni, scusate il francesismo. E a un certo punto siamo invitati in un centro sociale, non faccio il nome per decenza, voglio dire, veramente di scoppiate incredibili, no? Arriviamo e all'entrata c'era questa ragazza, no? Sembrava una versione in trip di Candy, cioè mezza fresh, mezza... No. Madonna. E arriviamo e c'è un mercato di roba bio, vegana, non si capiva, cioè io non ho nulla contro i vegetariani, ci mancherebbe, ma per esempio noi quando mangiamo, siamo una band, lo sapete, sono un torello di 120 kg. Giravo con dei ragazzoni africani, ci hanno dato da mangiare un becchime di ceci che ci si è piazzato qua in gola. Cantare è stato veramente qualcosa di incredibile. Ma salutiamo Girasole in chat che è vegana. comunque già ci mancherà, poi va bene che sei, ma anche la pasta al pomodoro è vegana, facci quella che mi riempie lo stomaco. Esatto. Non mi devasti, una cosa è essere vegano e una cosa è fare cose un po' troppo strane, insomma. Sì. Sì, ma perché i vegani sono in gamba, ma hanno sempre l'istinto a fare proselitismo, devono convincerti che sono gourmet, quindi devono farti assaggiare cose strane. Comunque alla fine facciamo sto concerto, tutti scoppiati, non ce n'era uno che veramente, tutti cannati, da una parte anche divertente. Ma questo dove? Comunque, non ci dire il centro sociale, però ci puoi dire dove? Bologna. Perfetto, allora è già più chiaro. Insomma. Allora, comunque alla fine scendo dal palco, incontro, mi presentano questo qua che doveva essere tipo il guru politico del centro sociale, no? Era uno e parlava, no, siete stati bravissimi. Mi è piaciuto proprio, c'è un certo stile, c'è un certo sound, no? Io lo ascoltavo agghiacciato, no? e mi è piaciuto moltissimo anche quel tuo discorso che hai fatto sul diritto di voto ai migranti. Faccio grazie, ma non si può menzionare il diritto di voto ai migranti senza ricordare il diritto alla terra, me lo ricordo ancora, degli Indios Guanapi. No? Che è anche giusto tutto sommato, cioè. Li ho googlati, manco Google li caga di striscia, non sa chi sono, te lo giuro. E comunque da allora io dico, cioè, ho partito una riflessione uscendo da lì, siamo usciti da questo centro sociale dicendo, ma cazzo, ma i comunisti di una volta, quelli che volevano fare la rivoluzione, ma dove sono finiti? No? Cioè adesso sembra, cioè, bisogna, la rivoluzione si fa con mangiando tofu, ma ho capito, ma la lotta di classe è un'altra cosa, è colpa dei Berlusconi, magari fosse colpa soltanto sua, per una volta che è innocente, dai, lasciatelo stare. E comunque usciamo e mentre torniamo a Caserta di getto scriviamo Estinta la rivoluzione. Bello, sì, ottimo, cioè, ho capito. Ancora, E ancora non so chi sono gli Indios Guaraní. No, ma infatti io l'ho cercato su Google, non l'ho trovati, quindi non ma c'è magari stato. Chissà che voleva dire, qualche Indios che poi manco lui lo sapeva come si chiamavano, non lo so perché. Però per chi come me ha vissuto una certa fase, questa è una canzone tosta, di quelle che te le riascolti perché fa parte forse più della nostra generazione. Io non so quanti anni hai te, Gianluca, però... Io ho 41 anni, portati malissimo. Ok, no, però, vuoi sapere un aneddoto su sta canzone? Vai. Ci invitano al Festival della Legalità del PD, no? Chiaramente non avevano capito il tipo di musica che facevamo, no? Siamo arrivati e abbiamo aperto con questa, che comincia con comunista cerca sì, con due palle così, che non sia del PD. Due canzoni ce la staccano il microfono. Eh beh. Però è colpa loro, chi cazzo inviti se non sai di che si tratta, insomma. Un gruppo di immigrati che canta contro la camorra, però noi ovviamente subito Gianluca si era travestito da Bonaccini, che un po' ci assomiglia. Senti, ma tornando un po', poi dopo ci ascoltiamo il brano che avete citato prima, così almeno poi dopo andiamo a chiudere verso la fine con quella che passiamo tutti quanti i giorni, che io dico gli italiani, ma invece è italiani, cioè sbaglio sempre il titolo, tra l'altro, però vabbè, dai, d'altronde insomma la nostra è una piccola radio pirata fatta dei cialtroni, quindi insomma esatto, ce lo potete perdonare, ce lo raccontiamo sempre. In Sudafrica, quando ero nella mia baraccopoli, ascoltavo una radio che non cagava nessuno, cioè aveva una frequenza millimetrica, se spostavi un attimo la manopolina la perdevi per sempre. Solo musica reggae di artisti sconosciuti, quella radio mi ha salvato nottata intera. Cioè, le radio così sono le migliori. No, ma infatti. Senti, però io ho una curiosità, poi dopo ritorniamo un po' agli aneddoti, no? Perché poi tu, prima fuori onda, ancora non eravamo entrati in trasmissione, hai detto io di norma, proprio per abitudine, oramai forse proprio perché fa parte della tua vita, sono sempre circondato di africani piuttosto che magari di italiani e via dicendo, ok? Io ti faccio una domanda che è stupida, perché la domanda è stupida, io me ne rendo conto, cioè nel senso è intrinsecamente stupida, però io la faccio uguale. Perché? Mi ritrovo di più nel loro modo di vivere. Nel senso, in generale con tutti, oppure vai, prova. Ci ho riflettuto tante volte. Allora, un po' è successo ovviamente, perché comunque tornato dall'Africa mi sono trovato in un paese di gente che non viaggia, cioè se non sei uno che viaggia. Io dico sempre c'è una subcultura migrante che è interessantissima, di gente che ha visto il mondo, che certo, ha capito le priorità della vita, e io mi riconosco di più in questo perché l'ho vissuta sulla mia pelle. È stato un po' un caso che mi sono trovato così, e talvolta ti trovi a parlare con gente che veramente con cui non ti ritrovi, proprio i valori, le priorità, ma stessi argomenti di cui parlano, dopo un po' mi fanno il latte ai coglioni, scusate il francesismo, ogni tanto mi scappa. No, vai tranquillo. E quindi mi ritrovo di più. E poi c'è questa cosa, io chiunque ascolta, cioè una volta, ma tante volte me lo dicono. Una volta un uomo di 60 anni mi ha detto: ma hai fatto più cose tu in 35 anni che io in tutta la mia vita, mi ha detto, no? E molti direbbero che sono stato un incosciente. E il fatto è che questo è molto curioso, c'è un antropologo keniota, non mi ricordo il nome, che disse che uno delle ragioni della povertà dell'Africa, ma anche la felicità degli africani, è che non percepiscono il futuro, che vivono di più il presente, cioè non lo percepiscono come noi, cioè quello che non è ancora successo non è reale. Quindi da una parte purtroppo è anche la causa della povertà, nel senso che c'è meno propensione alla progettazione, diciamo così, investire eccetera, certo, eccetera. Hanno un concetto diverso di futuro rispetto a noi. Questo ha detto quest'altro problema. E io me lo ritrovo questa cosa qua molto, cioè questo vivere molto più alla giornata e vivere tutto, tutto e sempre, quindi mi ritrovo meglio con loro, perché sono sempre stato di natura così, e poi vivendo con loro ho consolidato questo aspetto, cioè che chiunque mi conosce e conosce la mia vita direbbe che sono un incosciente. Io sì, sono felice di esserlo. Senti, qui in chat Lobby Frontali ci scrive che gli Indios Guanapi, giusto per fare un po' di cultura, sono come il Darfur, sono dentro tutti noi. Beh, citazione di Boris. Questa è bellissima, questa mi è piaciuta veramente tanto. Ok. Comunque, senti, per favore scrivilo sulla chat, se qualcuno li trova mi manda l'informazione, perché mi devasta ancora la... Li abbiamo cercati tutti su Google, da quando ci hai detto tutti abbiamo googolato, ma nessuno di noi ha trovato niente, quindi vabbè, bisogna sapere che si stava drogando il politico. Se non esistono gli Indios Guanapi, capisco perché non abbiano diritto la terra. Perché non esiste la terra. Senti, durante il brano Antonio ti imbeccava, diciamo, con degli aneddoti, dei racconti che sono parte integrante un po' della tua storia, no? Poi dopo torniamo anche su questa cosa degli africani e del modo in cui tu vivi con loro. E poi alla fine vorrei anche, un po' con lo spunto sempre dato da Antonio, cercare di capire alcuni aspetti tipici, no? Alcune idee che la gente, cioè luoghi comuni, i classici luoghi comuni che si hanno verso X o verso Y, quelli che possono essere più o meno veri, quelli sono gli aspetti positivi e quali sono gli aspetti negativi, perché poi ogni ambiente, insomma, no, voglio dire, ogni situazione, ogni cultura c'ha il suo bene e il suo male. Però iniziamo dagli aneddoti, che mi sa che... Sì, allora, gli aneddoti di Gianluca Castaldi sono diventati famosi perché dopo la terza birra generalmente mi si chiede di raccontare aneddoti. Sì, però no, questa è una cosa non si scappa, dice. Arriva il mistero. Sì. Io sono, tu non mi conosci, sono molto teatrale. e soltanto che questi aneddoti, alcuni sono, me li chiedono così tante volte, no, capisci? Sono diventati tipo dei classici, tipo vai al concerto di, capisci, di non so, dei Rolling Stone, Satisfaction, chiedono il pezzo, quello sì, che hanno il titolo, infatti, le storie ormai. Sì, sì, ormai sì, sì, alla fine, quella dell'impala, no? E lo so, perché io qui in runtime c'ho, anche io c'ho il mio pezzo, cioè insomma, c'ho il Pantagollant verde, quindi la gente ogni tanto dai racconta il Pantagollant verde, quindi c'è una storia che poi però non lo racconta, radio non si può raccontare, è troppo fisica come storia. Mamma mia, ho detto così, sei molto interessante, dell'impala. Lo so, però è fisica nel senso proprio a livello di stress, devi percepire lo stress della cosa. Insomma. Ma Gianluca, c'è anche una storia di un impala che indossava un Pantagollant verde. Dai, okay. Questa no. Quella non la racconto. Allora, mi trovo dopo, io ogni tanto torno in Sudafrica a ritrovare amici, eccetera, eccetera. E a un certo punto vado a cercare questo mio amico, che appunto non vedevo da una vita, no? E mi dicono che non c'è più, è tornato in Zimbabwe, stava nella baraccopoli. Siccome io a un certo punto mi ero trovato un buco di giorni che non sapevo che cazzo fare, vado in Zimbabwe, no? E allora devo andare verso il confine praticamente per andare in Zimbabwe, perché non avevo il visto, quindi dovevo passare illegalmente il confine. Non avevo fatto la richiesta del visto, e passare il confine è abbastanza semplice, vuol dire. E comunque mi ritrovo ad andare là e scopro che c'è chi sta andando lì, un po' di gente, vari, sono i camionisti, così, e quindi per risparmiare decido di chiedere chi sta andando in quella direzione, e conosco sfortunatamente Senzu, no? Un uomo veramente, solo la faccia costituiva reato, ve lo giuro, cioè una roba impressionante. E comunque io arrivo e faccio, sì, so che stai andando, no? Verso il Zimbabwe, fa sì, eccetera, eccetera. E concordiamo, no? Concordiamo, lui aveva un pick up, quindi dietro aperto, concordiamo che insomma io pago e vado con loro. C'era lui e il suo compagno di guida, che era muto, tra l'altro, proprio muto, non parlava. E niente, cioè non era silenzioso, era proprio muto. Era muto, per almeno uno dei due, perché Senzu parlava per tutti, okay. Era una roba logorroica, una diarrea di parole, no? Ok. Comunque arriviamo, partiamo, tra l'altro mi mette dietro, no? Io dico, minchia, mi fai pagare l'ira di Dio, perché ovviamente ero bianco. Io ho anche fatto notare, faccio, guarda che mi stai chiedendo troppo. Lui mi ha detto, il criminale dice che non sia un criminale, che uno, un bianco che passa il confine. Io facevo un criminale con la chitarra. Lui mi fa, beh, magari un criminale stupido. Comunque alla fine mi dice che no, lui non si fida di me, lui, che tutti, la faccia te l'avrei fatta vedere, guarda. Comunque alla fine mi metto dietro, no? Partiamo, lui mette, inizia a mettere CD strani, vabbè, meglio che non parlo. Gusti musicali orrendi, lo giuro. Comunque, e soprattutto, no, in barba alla sicurezza, no, bottiglia di brandy di fianco a lui, lui beveva allegramente il brandy mentre guidava. Vabbè, e io c'ho un amico mio che lo fa col vino, quindi. Comunque, a un certo punto, tieni conto che io stavo dietro, con la schiena contro l'abitacolo, quindi. Una botta incredibile, una frenata, mi sono partite tre vertebre, me ne sono trovato in gola, no? E scendiamo, ormai era buio, scendiamo e il coglione aveva investito un Impala, no? No, lui tutto, Gianluca, mi sa che è morto, cioè 10 metri di strisciata di sangue, non sono certo segno di buona salute gli faccio, no? Lui dice, vabbè, anche si fa cacciare fuori dalla bocca che la macchina non è sua ma del suo capo. Aia. E deve dimostrare che la macchiatura non è perché, dice lui, non è che stavo guidando ubriaco, è un Impala che ha attraversato. Tutto stai guidando ubriaco, prima di tutto. Secondo, cioè, è un Impala, no? Comunque alla fine decide di mettere l'Impala dietro con me, cioè mi sono andato a fare... Di notte, in mezzo a nulla, dietro a un pick up con un Impala che non era neanche morto, stava morendo, poraccio. Che mi sanguinava addosso, no? E purtroppo mi è morto con me, no? Era lì dietro, poi alla fine è morto, no? Comunque alla fine arriviamo, ci fermiamo finalmente. E quando arriviamo lì, una stazione di benzina, io decido di andarmi a dare una sciacquata, no? Perché mi ero tutto pieno di sangue. E esco fuori da cesso, chiamiamolo cesso, dal posto dove c'era quest'acqua, e saluto tutti, voglio comprare qualcosa. Mi dimentico che ho tutta la maglietta e calzoni pieni di sangue, cioè sembravo Dexter, capito? Cioè, sembravo uscito dall'ultima scena di Carrie, lo sguardo di Satana, no? E neanche a farla apposta c'era un poliziotto. Ecco qua. No, due poliziotti, in verità. Che mi guardano, no? Io lì subito mi faccio, no. Cioè, non è sangue mio, e poi capisco che ho detto una cagata, ovviamente. Ancora peggio, esatto, è sangue di chi ho ucciso. E che quelli mi guardano e poi faccio, no, scusate, abbiamo investito un Impala. Il poliziotto mi fa, ah, un Impala, e faccio, sì, sono un Impala, non è sangue umano. Lui mi fa, l'Impala, l'animale in via estinzione, specie protetta. E faccio, troia. E mi faccio, ma forse sarà stato un cane, non lo so. Comunque nel frattempo vanno dietro a vedere ed era proprio un Impala. A quel punto mi sono rotto le palle di difendere quel coglione di Senzu e ho detto, sentite, guidava lui ubriaco, fatevi quello che volete, ciao. Hai fatto benissimo. Io finivo in galera. Cioè, la pazienza c'è sempre un limite, tutto sommato. Esatto. Un saluto all'Impala, ovunque si sia. Senti, ci chiedono in chat se poi ve lo siete magnato sto Impala, no? Se l'è mangiato Senzu. Senzu si è mangiato, però dopo che è uscito dal carcere, però. No, credo che lui, perché poi siamo ripartiti, credo che abbia dato una mazzetta ai poliziotti, qualcosa del genere. Ah, vabbè, tutto a posto, insomma. Vabbè, povero Impala. Tutto il mondo è paese, sì. Arrivati comunque alla fine se l'è magnato. Ha fatto vedere al padrone che è stato un Impala, non che guidasse ubriaco, che è stato un impala, e poi si è mangiato un impala. Ok, quindi tu sai per certo, insomma, niente, Girasol, sto impala ha fatto una brutta fine. Difficilmente. Mi sono rifiutato di mangiare una specie protetta, insomma, sono cresciuto con i documentari. Però vedi che il nostro Gianluca, vedi che non se l'è mangiato, se l'è mangiato il tizio ubriaco, vabbè dai. Vabbè, anche perché comunque l'hai accompagnato alla morte, cioè... Ero affezionato. Esatto, insomma, io lo dovevi. Lo hai sostenuto negli ultimi istanti della sua vita. Lo sai che io, mentre io ero dietro quel furgone, questo lo puoi chiedere a Antonio. Io mi aspettavo, no? Torno a casa, devo raccontare questa storia. Non mi crede nessuno. Quindi ho fatto il video dietro il furgone, al freddo, al gelo, nel buio, con io e l'impala tra le braccia morente. Cioè, veramente. E quando ho raccontato la storia, ho detto, guardate, lo so che sembra incredibile. Ho fatto vedere il video a tutti quanti. No, perché racconti una cosa del genere, ti dico, se ho capito, questo si fa un cannone. È illegale in diversi stati questa cosa, infatti non lo facciamo dire. Vabbè, pace all'anima sua, dicono in chat. Pace all'anima. D'altronde... E ho dei dubbi sull'anima degli esseri umani, figuriamoci degli animali, ma insomma, vabbè, questa è la mia considerazione. Però vabbè, sì, è triste pure poi come cosa, perché a me mi è capitata una cosa del genere con una lepre, che mio padre ha investito sta lepre, capito? Poi dice, che famo? Che famo? Non sa mangiamo. Cioè, almeno non era una specie protetta. No, non era una specie protetta, no. Però vabbè, insomma. È sempre triste, uguale, tutto sommato. E poi parlo io che mi sono mangiato il pulcino, quindi... Vabbè, questa è un'altra storia, non c'entra niente. Torniamo invece ai nostri amici africani. E poi un altro aneddoto, perché questi aneddoti sono bellissimi. In effetti, allora noi ci dobbiamo conoscere. Questo oramai facciamo questo patto. Quando si calmeranno le acque, noi ci dobbiamo conoscere. Faccio scegliere ad Antonio, che è uno dei fan dei miei aneddoti. Antonio, quale vuoi? Allora, c'è quella dell'onda anomala, che è un bel po' forte, però secondo me ci può stare. Vai, onda anomala. Siamo pronti a rischiare. Padre Bernard, ma poi la mamma si arrabbia, quindi... No, non racconto quella. Allora, mi trovo in Ghana, da un mio amico, si chiama Rashid, che vive praticamente in un posto chiamato Teshen. C'è questa cosa veramente strana. Loro vivono proprio sul mare, no? E hanno praticamente questa scogliera enorme e la sera, cioè io la sera non hanno praticamente cioè se uno pisciano in qualsiasi momento, ma per fare l'altra, la B, la numero B, la numero 2, la sera vanno tutti su questa scogliera. Si accovacciano e cagano allegramente tutti in compagnia. Oddio! No. Vabbè, è una cultura. No, perché poi dopo questo, poi la notte sale la marea e il giorno dopo quella scogliera è pulitissima, ci potresti mangiare, no? Certo. Cioè, ovviamente non ti consiglio di farlo. No. Non lo farei manco io, però insomma. Ma io i primi giorni, no? Io tra l'altro quando mi ha spiegato sta cosa, perché poi vanno tutti insieme la sera, è una cosa impressionante. Sembra una setta, come la sera tutti verso la scogliera. Cioè, quindi se la tengono anche per farlo tutti insieme. Io l'ho detto, ma scusami, ma se uno gli scappa a mezzogiorno, te la devi tenere. Fine, punto. Crusca, non so. Comunque, alla fine, cosa succede? Che io all'inizio, i primi giorni, facevo un po' fatica, perché poi, cioè, per noi quello è un momento di privacy, cioè per un italiano andare in bagno è un appuntamento con te stesso, no? E col tuo cellulare eventualmente. E io mi trovavo accovacciato da tutti questi africani, tra l'altro essendo l'unico bianco, capitavo un po' nell'occhio ovviamente, no? E poi ogni tanto qualcuno si avvicinava, sempre accovacciato, where are you from? Cioè, I'm from Italy. E italiano! Roberto Baggio! Certo. Capito io? No? Tra l'altro in quel momento pensavo Roberto Baggio, che probabilmente stava cagando nel cesso più bello del mondo, e così esatto, tutto dorato. Esatto. E comunque, capisci, no? Io dopo un po' veramente, però dopo qualche giorno ce l'ho fatta. E siccome ero diventato lo zimbello di tutti, mi è partita anche la standing ovation della scogliera di tutti quanti che finalmente ero riuscito a fare quello che tutti facevano. Comunque, nel frattempo, i giorni passano. Io sono entrato in questo meccanismo, no? Alla sera, anche io con tutti gli altri lì a questo rituale strano, no? Comunque, a un certo punto, tutti hanno sentito parlare dell'onda anomala, ma nessuno sa cos'è. Simone, tu sai cos'è l'onda anomala? Mi viene da capire più o meno quello che posso capire, allora, quello che succederà, però insomma. Allora, noi il Mar Mediterraneo non ha onde anomale perché è chiuso, ma certo. L'oceano ha questa cosa. Cioè, a un certo punto l'acqua comincia a ritirarsi e poi ti arriva quest'onda incredibile e poi torna tutto normale. Io mi ritrovo lì accovacciato insieme a tutti, no? E a un certo punto anch'io noto che l'acqua si comincia a ritirare particolarmente. No, io non avevo ancora finito, tra l'altro era da poco che avevo imparato a cagare sulla scogliera, volevo parlare, ma, no? E vedo che tutti tranquilli, proprio senza panico, tutti che si alzano, si tirano le calzoni, se ne vanno. Io dico, mica, hanno finito tutti all'unisono. Cioè, mica che orologio biologico. Cioè, senza dirti niente però, perché loro davano per scontato che tu lo sapevi. Eh sì, comunque a un certo punto tutti che se ne vanno, io mi vedo arrivare un'onda strapiena di stronzi, ma arriva completamente addosso, una cosa schifosissima, no? In quel momento ho pensato all'epatite, al colera, tutto. Certo, come minimo. E il mio amico Rashid mi ha detto, ma quando hai visto tutti alzarsi e andarsene via? Io faccio, Rashid, non avevo finito, no? E poi comunque potevi anche spiegarmelo, Cioè, noi in Europa attiviamo l'acqua del cesso e tutto sparisce, non è che ti torna tutto indietro, Comunque è stato traumatico, devo dire. Ancora oggi quando tiro lo sciacquone mi scende una lacrima sul viso. Però ti è abituato a stare in un mare di merda. Come... Vabbè, ma questo allora è abbastanza simile al Pantacolla Altaverde. Quindi, vedi. Tanto alla fine, come dice la nostra ascoltatrice Girasole, nostra amica, si finisce sempre a parlare di quello. Cioè... Abbiamo capito perché è verde intanto, mi sa. Comunque, è una storia che mi chiedono spesso, ma evito di raccontarla quando si mangia. Sì, è chiaro. Però no, devo dire che è anche divertente, perché poi secondo me, e questo succede, dai, così facciamo pure un po' di pubblicità. Ricordatevi, ragazzi, ogni sabato sera alle 23:30, anche se poi bisogna vedere, secondo me poi spostiamo anche lì, perché secondo me il sabato sera la gente comincia ad andare in discoteca, voglia il coronavirus. Comunque c'è Runtime by Night, dove noi facciamo questo flusso di coscienza, chi vuole può partecipare liberamente senza problemi, si chiacchiera fino alle 2, alle 2:30 di solito, insomma così, e non si sa perché, c'è un punto della trasmissione dove si racconta sempre le volte in cui la gente si è cagata addosso, quindi questa sarebbe stata un aneddoto perfetto per andare questo c'è stava tutto un circolo di intellettuale assolutamente. Guarda, no, in realtà le intenzioni, ma è la cosa fantastica di quel programma, infatti lo dice pure la nostra ascoltatrice Girasole, che è capace di passare da concetti filosofici a momenti estremamente di introspezione intima a quella volta in cui ti sei cagato sotto. Insomma, cioè, proprio con dei passaggi senza senso, con nonchalance, ed è veramente dalla paralisi ipnagogica alla merda. Esatto, bravo, vedi. Perché esatto. È vero, tu due volte hai partecipato, hai ragione. Sì, vedi, sì. Gianluca, a sto punto ti tocca. Ti tocca anche a te partecipare una sera. Vabbè, ma lui è sposato, c'ha gli amici africani là che stanno. No, poi non voglio rivivere. Cioè, ogni volta che mi chiedono di raccontare questa storia mi fanno rivivere il trauma. No, perché adesso fa ridere, ma guarda che. Guarda che, cioè, vedersi un'onda che arriva, io vedevo proprio tutti gli stronzetti sulla cresta dell'onda, cioè, io l'avrei potuto contare uno a uno. Diciamo che il l'hype del dell'ascoltatore, cioè della persona che ascolta, e spera che praticamente la fine non sia quella che insomma, che poi è, cioè, raccontato, nel senso che tu dici onda anomala, cominci a raccontare il tutto, il contesto. Vabbè, sì, il finale se per o meno. Ah, io me l'immaginavo anche peggio. Anche se capisco, insomma, il però trame. fantastico veramente. Io faccio fatica a pensare peggio. Beh, ma tu c'eri, quindi. Vabbè, non è a Napoli dicono tutti i ricchioni col culo degli altri. Bravo. bravo. Che poi tu vivi a Napoli, no? Giusto? No, aspetta, no, tu sei Caserta. A Caserta, vabbè, quindi sempre in campagna. E a Caserta, e l'accento insomma ti tradisce, sei un casertano doc, no? Quindi hai sentito proprio la cadenza sicula, Sì, sì, quella proprio super campana, sì, sì, vabbè, d'altronde. Che poi tra l'altro c'hai anche una bella voce, mi ricordi molto Enrico Ruggeri, devo dire la verità. Veramente quando canto mi dicono J-Ax, mi dicono anche vero, bravo, anche è vero, bravo, ma anche come parli, sì, in anche effetti sì. Parli, bravo, sì. Bravo, vabbè. Sì. Io quando canto tendo ad avere, meno male che faccio reggae pop, comunque tendo ad avere una voce molto blues, molto rock. Canta un po' la balalaica. Vai. Torniamo. Vai. Non la canto. Rifiutati, fai bene. Non so, poi ognuno c'ha il proprio timbro, c'ha le proprie connotazioni, quello è. Infatti. Bello, ma secondo me pure fare un po' di speaking, un po' di, che ne so, te dovessi venire voglia di fare radio di notte, noi ti invidiamo la prossima volta. Sì, assolutamente. Vabbè, comunque ragazzi, ci ascoltiamo un altro brano, che è la traccia 10, quello che dicevate prima, aspettate, fate prima voi però, perché io ora che apro le cartelle. Bravo. No. Ok. Sì. La spiego? Scritto dai Califf. No. È stato il primo pezzo scritto dai ragazzi, Califfo Ground, parla appunto di questa, è una reinterpretazione di, tra l'altro, di Knockin' on Heaven's Door, una reinterpretazione ovviamente distante da, e niente, parla di questi ragazzi e, quindi per esempio la prima strofa c'è questo ragazzo che dice, che è proprio uno di quelli sparati, che dice sono ancora qui col sangue per terra, eccetera, eccetera. Poi però c'è un'analisi dietro il fatto, quell'analisi che i giornalisti non hanno voluto fare, l'abbiamo fatta noi nella canzone. Ah, ecco, vedi, bene, ok. Quindi, perché comunque risvolto strettamente legato agli eventi c'è quasi sempre nelle vostre canzoni. Sì, sì. Ok, ci ascoltiamo il brano e torniamo presto. Va bene. Cry, oh my anthem, cry, oh my anthem, cry. se vero che sei nei cieli, segui il mio consiglio, restaci. Ieri avrai sentito sette morti di camorra, rivolta di immigrati e sui giornali solo merda. I fatti come stanno non li dice mai nessuno, la goccia che va a traboccare solo perché il vaso è pieno, pieno di ingiustizie, silenzi allucinanti, caporalato assurdo che è a servizio dei potenti. Fidati mio padre, c'è una sola verità, l'hanno uccisi quei ragazzi però tanto tempo fa. Prima in centri d'accoglienza, decreto di espulsione, poi via Castel Volturno in mezzo a tanta umiliazione. L'immigrato qui deve solo farsi il mazzo, stare zitto e foraggiare, produzione a basso costo. Fidati mio padre, non sono loro i criminali, ma ditemi perché non sta mai scritto sui giornali. Grande brano ragazzi, rientriamo bellissimo immediatamente in diretta per poi sentirci l'ultimo brano alla fine. Tra l'altro c'è Cuciniere dello Spaccio Profondo, che noi sappiamo chi è, però oggi si chiama così. Ah, perché ogni tanto cambiano, dallo Spaccio Profondo. Che ti fa, Gianluca, ti fa i complimenti perché questo pezzo è veramente bello, quindi veramente... Bello proprio sto pezzo, che poi tra l'altro ultimamente tra collaboratori di Runtime e persone in chat, tutti campani sono, si sa perché... Ci siamo focalizzati. Invasion. Invasion USA. Allora, dicevamo che avevamo detto insomma di parlare, di chiudere un po' la trasmissione, magari poi lasciandoti un po' di spazio alla fine per se vuoi raccontare o dire determinate cose o vuoi comunque fare delle tue considerazioni, che qui è sempre lo spazio aperto. Però era divertente anche insomma cercare di capire un po' tutta quella serie di luoghi comuni che alla fine fanno parte insomma dell'immaginario collettivo verso i ragazzi di colore, che poi tra l'altro è anche sciocco, no? Se tu ci pensi, perché i ragazzi di colore non è che so tutti di una, cioè nel senso magari so milioni di culture, sottoculture. Cioè, l'Africa è un continente, appunto, ecco. Come se fosse un villaggio, come se fosse cioè, un quartiere. Esatto, è come se uno dicesse: no, vabbè, ma quei luoghi comuni sull'europeo, capito? Nel senso, è veramente secondo ridicolo. Me, cioè, se uno mi paragona a uno svizzero, mi incazzo come una iena. Tra l'altro, ti giuro. Tra l'altro. Bene, allora, vabbè, poi tra l'altro fuori onda, giustamente tu hai raccontato anche un aneddoto, no, della tua vicina di casa che è venuta da te e magari si è avvicinata un po' quatta quatta, no? Dice, ma è vero quella cosa, no, che si dice? Che magari, perché secondo me la domanda... L'ha fatto con ingenuità perché lei ci ha visto veramente che... Cioè io spesso, ma siamo a casa mia, no? Loro vedono, mangiamo insieme, mia moglie cucina cibi africani, ma non è vero quello che dicono gli africani, scusi? No, che mangiano con le mani. Ah, cioè, sì, io già pensavo a ma non comunque, infatti era quello, perché poi, tra l'altro, tu che vivi comunque in una realtà, insomma, e sei magari un po' un'anomalia, no, all'intorno, perché al di là di quello che tu fai, di quelle che sono comunque le tue passioni e qual è il tuo lavoro, comunque il fatto che tu ti circondi, no, di un sacco di gente di colore, alla fine dal vicinato come viene presa sta cosa? Perché sai che insomma... No, a dir la verità, no, ecco, dacci un po' di buono, nel palazzo, nel mio palazzo è stupendo, cioè veramente i ragazzi sono amatissimi, tutti gentili. In passato mi è successo in un posto, cioè mi ricordo avevo affittato una casa a Casa Giove e tanto era una palazzina, praticamente erano tutti della stessa famiglia, solo il mio appartamento era affittato a un altro che ero io. E a un certo punto questo qua, chiedo scusa, ho visto che lei frequenta alcuni africani. Io faccio no tranquilla, io frequento esclusivamente africani, se faccio una ragione No, comunque, nessun problema, gentilissimi tutti quanti, veramente. Ah, no, questo è carina come cosa, anche perché veramente, ragazzi, io ho detto, facciamo fatica andare in giro per strada, se apri il finestrino della macchina ti viene voglia di richiuderlo, solo senti la gente che parla, proprio è una cosa veramente fastidiosa. Tra l'altro, il cuciniere dallo Spaccio Profondo in chat ci dice, perché sulla questione dei campani sono solo 1.300.000.000, no quella sopra, perché lui dice perché siamo cittadini del mondo e siamo ovunque, ma soprattutto ovunque, sì. È una cosa abbastanza, vabbè, quindi praticamente se io faccio il come posso dire, quello proprio becero, ma vicino a te con la mano a cucchiara, no? Cioè tipo per nascondere, ma è vero che ce l'hanno lungo? Tu che mi dici? Tu dici, io non lo so, perché non è che vado a guardare, no? Cazzo ne frega, sbatti. T'hai cercata comunque? No, no, ma io l'ho fatta apposta. Cioè. Oggi scopriamo che si può domande sui piselli degli altri. Mi dispiace per Michela. No, no, io lo domando per le ascoltatrici che stanno in chat. Non è che io, sai, che per me il luogo comune già per definizione è una stronzata. Quindi, cioè, qualsiasi cosa poi di. Poi è chiaro che ci possono essere delle radici, no? Però in generale. Quindi il ritmo del sangue, parliamo del ritmo del sangue. Su questo ho un aneddoto bellissimo. Vai. Cioè, questo si chiama Kwame. Era una, praticamente a Napoli centrale, e c'era veramente quei rasta bianchi. Non so se ce l'hai in mente. No, però vabbè. I bianchi e gli italiani che si fanno i rasta. Ah, sì, come no? Sì, ok, sì, voglio. No, che minchia, mi verrebbe a dire, sei bianco, fatene una ragione, tesoro, dai, su. Non puoi scimmiottare. Io vivo tra africani, ma non scimmiotto la cultura africana. Mi sembra una cosa proprio, no? Ognuno è quello che è. E comunque questi se ne stavano lì in questa piazzetta con a far bordello con il giambè, no? E tipo la canzone di ieri, le storie attese, capito? Il parco Simpione, no? Questo però è successo prima di questo che ho fatto della canzone. E qua me, capisci, che alla fine voleva soltanto farsi come una bevuta gratis, qualche sigaretta, fumare, cioè questo, qua me non c'è mai un soldo, no? Comunque passa di lì, voleva soltanto una sigaretta, no? E praticamente questo gli dicono, perché non suoni qualcosa? E qua me prende il giambè e fa una cagata incredibile, cioè 4/4, ti giuro, che l'avrei fatta anche io. No, e quelli su, certo che c'hanno proprio il ritmo del sangue, no? No? E Kwame, che non è un coglione come loro, cioè, si inventa di stare a pianta che lui nel suo paese insegnava ritmica di giambè. Insomma, alla fine, no? E comunque, alla fine, pur di farsi pagare birre, cena, pizza e tutto quanto, si inventa di stare di tutto, no? E siccome un po' non sapeva cosa fare su quel giambè, ovviamente, perché non lo sa suonare di fatto, no? Comparte con la teoria, no? Il giambè è rotondo, no? Che il cerchio della vita. Io dico, ma l'ho già sentito. Poi io gli faccio, ma sta, lui mi fa il Re Leone. Cioè, gli ha raccontato il Re Leone, praticamente. Questi cretini lì, ho capito, Comunque, sta cosa delle dimensioni artistiche dei ragazzi neri ha scatenato il panico in chat, quindi è sempre un argomento forte. Questo funziona sempre. Anche offensivo, loro lo trovano molto offensivo. Ma lo sì, sai? Ma io penso che. Ma vabbè. Guarda, ti dico una cosa, io mi è successo parlare dell'argomento con alcuni africani, loro dicono è offensivo, tutti a pensare sempre alle nostre dimensioni, no? Cioè sembra che un uomo africano sia il piedistallo del suo pisello, cioè non funziona così. Beh, sì, è un po' quasi il fenomeno da baraccone. Ah, tu sei quello col pisello grosso. Capito? Insomma, un po' come se dice dei giapponesi al contrario, no? Cioè, dice, ma è vero che i giapponesi ce l'hanno piccolo? Ma perché c'è? Cioè, vabbè, comunque poi, dai. È offensivo, Non ho capito, scusa. Alla fine è offensivo. Sì, è chiaro, chiaro. Michela, tu che luogo comune c'hai? Il fatto del canto, per esempio. Io non c'ho, in realtà, non c'ho i luoghi comuni. Luoghi comuni. O non c'è curiosità? No, e curiosità ce n'ho tantissime, ma proprio perché c'è curiosità non c'ho mai avuto particolari. E si torna al tema? No. Non c'ho mai avuto particolari luoghi comuni da sfatare, insomma. Cioè, l'Africa è veramente uno di quei paesi che vorrei in qualche modo conoscere meglio, vorrei avere la possibilità di conoscere meglio e anche il coraggio, perché devo ammettere che forse la vita che hai fatto tu, prendere, partire, comunque andare, è vero, come ho potuto raccontare, c'ho avuto un vincolo un po' piccolo, abbastanza importante, insomma, che me l'ha impedito, però ci vuole coraggio per entrare in certe culture, avere il tempo e prendersi il tempo di scoprirle. Quindi io sinceramente mi sento di c'hai stima, grossa stima. Bravo, sì. Bravo Gianluca, io grazie. Ti porto la stima di mia moglie. Senti, ma tu come quando vi radunate, in che lingua parlate in generale? Inglese. Ah, ok, quindi vabbè, perché tu, il francese tu lo sai? No, ok. Parlo inglese, Zulu, Shona e Xhosa. Ah, quindi tu ci hai avuto il tempo di impararti qualche dialetto? Sì. Come ti sei trovato? Perché questa è un'altra curiosità. Cioè, lo Zulu, mi senti? Sì. Lo Zulu è una lingua molto particolare, ha 12 modi diversi di scocchiare la lingua. Oh, porca. La birra, che mi sto bevendo adesso, in Zulu, è Nkumbute. Oh madonna, incredibile. Fantastico. Ecco, questo è fantastico. Questo meriterebbe una puntata, sì, sua. Assolutamente. Cioè, proprio... Ma anche un programma intero, sulla studio tutta delle la lingue. Radio adesso. Cioè. No, veramente. Allora, ci chiedono, dici qualcosa in qualche dialetto, così capiamo fonicamente come funziona. E niente, quindi questo non possiamo non farlo, Gianluca, vai. La frase più bella che ho imparato in Zulu? Sì. Ubuntu Gabantu. Io esisto perché noi esistiamo. È il principio dell'antropologia africana. Mm. Ognuno è... mentre la cultura occidentale è... l'uomo è un'isola, no? Nasciamo soli, moriamo soli, tra virgolette. Nella cultura africana non ci si percepisce fuori dal contesto sia fisico delle persone che ci circondano, ma anche storico. Noi siamo le persone che abbiamo conosciuto e ci hanno reso quello che siamo. Umuntu Gabantu. Bello, dà molto un senso di appartenenza a tribù, comunità, no? Cioè il fatto che tu sei all'insieme, nell'insieme, quindi è un po'... Sì. Molto bello. Io invece sono curioso di un'altra cosa, che è un po' una sciocchezza anche questa, perché ovviamente io so quello che dice lei, cose un po' stupide, però Michela mi racconta sempre. Allora, voi dovete sapere che il padre di Michela sì. Una volta ha fatto un viaggio in Africa, in Kenya proprio, in Tanzania. Ah, no, in Tanzania, ok. No, in Tanzania lui ha, diciamo così, ha dato una mano a un suo amico che per tanti anni ha vissuto, probabilmente ancora vive da quelle parti, adesso abbiamo un po' perso il contatto. E mio padre fa l'elettricista fondamentalmente, lavora negli impianti industriali, eccetera. C'era una grossa azienda che dava via un generatore di corrente, così, cioè il generatore funzionava ancora, però per loro era abbastanza era vecchio da poter essere buttato per poterne avere uno nuovo. E allora tramite un accordo tra questa azienda e diverse persone sono riusciti a portare questo generatore in Tanzania, in un villaggio, adesso non mi ricordo esattamente dov'era, dove c'era comunque bisogno di questo generatore. E mio padre con questo medico e altri amici si sono accordati per fare il viaggio e per passare del tempo lì, per poter costruire, cioè mettere praticamente il generatore in funzione e costruire un capanno, una cosa che comunque lo contenesse, lo proteggesse soprattutto da eventuali temporali, intemperie, eccetera eccetera. E ovviamente per montare il generatore ci è voluto niente, nel senso poi due giorni. Per costruire il capanno, cioè mio padre praticamente era sconvolto. All'inizio era sconvolto perché è stata la cosa più lunga che avessi mai fatto nella mia vita. Cioè noi magari ci mettiamo due giorni per costruire una capanna grande, una casa grande quanto una stanza. Lì è stata veramente la cosa più lenta del mondo. Inizialmente lui viene dai ritmi di Roma negli anni 90, corri, corri, corri, corri. Però poi, cioè, ma raccontare... cosa dicono gli africani? Pole pole. No, sì, pole pole, che c'è in tutte le lingue, eh? Pole pole in Kenya o in Tanzania, kanwane kanwane in Zulu, kakakakra in Ghana, sempre lo stesso, piano piano. Loro dicono, noi abbiamo bellissimi orologi, loro hanno un sacco di tempo. Sì, sì, infatti poi allora, quindi entrato. Comunque tu confermi questa cosa del pole pole, cioè ce l'hanno sta filosofia un po'... Sì, ma c'hanno anche ragione, cioè, giustamente, sì. Cioè io vabbè, non fammi parlare, va. Dai, vai tranquillo. No, perché io c'ho un mio amico, collega, no? Un mio amico che è stato un mio collega per tanti anni, no? E, bravissimo, mediatore culturale stupendo, cioè veramente... bravissimo, era del Ghana, solo che per carburare la mattina era un parto, no? E lui in teoria lavorava, cioè mi doveva aiutare, era stato assunto per aiutarmi, no? Io ero il suo responsabile, eccetera eccetera. Dovevo, la mattina dovevo portargli il caffè io a casa sua, il caffè, il, no? Stavolta mi dovevo chiedere chi lavorasse per chi tra me e lui, non avevo ben capito, no? Il, e soprattutto, no, a un certo punto mi fa, ma devi sbrigarti, e lui mi fa, dove corri? Ma ci andiamo a lavoro. Lui mi fa, ma che cazzo corri per andare a lavoro? Cioè nessuno al mondo corre per andare a lavoro. Io faccio, guarda, c'è tutto un mondo che corre per andare a lavoro, no? Però lui giustamente non concepiva sta fretta di essere efficienti. Comunque ci aveva ragione lui alla fine. Sì. No, ma sì, questo noi te lo confermiamo. Mi sono adeguato io alla fine, ah. Fanculo. Ma c'aveva ragione, sì. Questo noi te lo confermiamo, perché Michela la mattina pole pole tutta la vita, insomma. Cioè, prima che carbura, che se veste. Dice fortuna, ci mandavi a aprire ai 9? Vabbè, alle 9:30. Guarda, io e mia moglie, ogni tanto la prendo in giro, la chiamo slow motion, che vuol dire rallentatore. Fantastico. No? Esatto, Antonio conosce che chiedi. No, però lato positivo, cioè una volta, cioè mia moglie è stupenda, no? Ogni tanto lei il concetto di pulire la casa, no, che a lei piace proprio pulire, perché dice che io non so pulire, no? Lei dice, se devi farlo divertiti, quindi lei mette la musica e balla, no? A me è successo un paio di, cioè lei balla mentre pulisce, mentre passa lo straccio, così. E una volta torno a casa c'è lei con uno straccio in mano che piroetta per la stanza, no? Per i soggiorni, faccio, e che lì cazzo fai? No? Lei mi guarda come per dire, ma che domande? Faccio, no? Sto pulendo, io faccio, no. Vabbè, questo forse secondo me è la transizione che hai fatto, e che chiaramente ti ha catturato. È chiaro che se entri in quel meccanismo, c'hanno ragione loro. Calza le mani da questo punto di vista, no, è una delle ragioni per cui la amo. Chi non si innamorerebbe di una donna che non rompe, canta e balla, canta e balla, canta e balla anche mentre frigge un uovo, dai, è stupendo. Dai. Già. Scusa, non ci abbiamo capito un cazzo, diciamoci la verità, però insomma, facciamo sempre il tempo a imparare, non è che dobbiamo per forza persistere nelle nostre, noi vabbè, qui noi due, Gialumma, a te non te ne frega niente, ma siamo persone che stanno studiando ed elaborando un piano di fuga, quindi un piano di fuga di quelli fatti bene, di quelli ciao, capito? Quindi se avete bisogno di un contatto in West Africa o parte del sud dell'Africa, vi passo sotto banco, vi passo qualche indirizzo. Ok, basta che non c'è, dai, quello che ficca sotto gli Impala, poi. ti mando quello dell'ondata di merda. così mi dici come ci si sente. Ma guarda, io sono solidale pure senza staccio. Oddio, veramente a me il pensiero, ovviamente, da occidentale, cioè il pensiero principale è, oddio, e poi come facciamo a farla? Cioè, no, veramente. Ma secondo me, guarda, è una questione, è anche quella, è una transizione. Quando l'hai superata, secondo me, dopo... Guarda, ti dico una cosa, io scrivo, non so se Antonio te l'ho detto, scrivo, mi piace molto scrivere, e ho scritto anche sceneggiature, cose varie, insomma. sto scrivendo un libro che probabilmente non finirò mai, perché io comincio 3 libri all'anno, poi non li finisco mai. Lo scrivo perché mi piace scrivere. Sto scrivendo un po' di queste cose qua che ho imparato nella vita così, e il titolo del libro è Bob Marley e il secondo principio della termodinamica. Per farti capire che non devi chiederti, non devi cercare di capire. Se cerchi di capire impazzisci. Sì, è vero. C'hai ragione anche tu. Antonio. È vero. Oui. Ci sei? Vuoi dirti qualcosa? C'è qualche luogo comune che vuoi sfatare anche tu? Basta. Allora, i luoghi comuni divertenti mi sa che li abbiamo esauriti. Ci sono quelli un po' più brutti, più macabri, tipo gli africani stuprano, gli immigrati ammazzano, soprattutto gli immigrati. Ma stuprano. Per noi, per noi non, cioè, non li prendevamo proprio in considerazione come luoghi comuni, insomma, però sì, nel senso che è vero. A me mi è venuta in mente subito una frase di Guzzanti quando... che diceva più o meno... Aborigeno, io e te, che cazzo se dobbiamo da dire? A parte quella, no, quella che faceva la maggior parte, no, secondo le statistiche, la maggior parte degli stupri è commessa all'interno delle mura domestiche, è commessa da italiani, ma questi immigrati continuano a stuprare per strada ed è proprio il segno che non si vogliono integrare, non diventeranno mai gli italiani. Io ne ho una migliore, no? Cioè, una volta stavo parlando con uno, no? Cioè, me lo sono proprio chiesto qua. A un certo punto continuava a dire, no? Questi neri vengono, ci portano via il lavoro, sono tutte puttane, spacciatori. Io mi chiedevo che cazzo di lavoro fanno gli italiani, non ho capito? Cioè, vengono, ci portano via il lavoro. Cioè, ma che lavoro fa sto qui? Cioè, veramente, guarda, è incredibile. Purtroppo noi ci abbiamo avuto un episodio l'ultima volta che siamo stati a Milano, che con un tassista, tra l'altro veramente una persona non molesto, e diciamo che lì ci vedo proprio, c'è un imbruttimento veramente forte in generale, non tutti chiaramente, però insomma c'è un forte... Anche perché generalmente io mi occupo di immigrazione, cioè quindi devo studiare spesso la legge sull'immigrazione, i numeri, cioè comunque è un tema molto complesso, cioè il fenomeno migratorio è un fenomeno sociologico molto complesso, non è che se uno parla con un medico di, che ne so, cirrosi epatica, no, sta zitto, ascolta. Se parla con un ingegnere di torri e ponti, sta zitto, ascolta. Sull'immigrazione sono tutti degli esperti, cioè la gente non capisce che avere un'opinione non vuol dire essere competenti. Questo è anche uno dei problemi di Facebook. Guarda, su questa cosa però io mi sento in dovere di doverti smentire, cioè è giusto quello che tu dici, ma è giusto in generale. Non è così, cioè non è sull'immigrazione, ma il medico lo ascolti. Io mi ricordo recentemente, l'altro anno, quando sono andato dal medico, dovevamo fare un certo tipo di terapia. Lui a un certo punto mi dice: guarda, dovresti fare questo, questo e questo, se sei d'accordo. Io me lo guardo e gli dico: scusi dottore, come se sono d'accordo? Lei è il dottore, io sono il paziente, no? Cioè, no, ma qui sono diventati tutti scienziati, quindi io adesso vi chiedo se siete d'accordo. E la stessa cosa succede a Michela fa l'assicuratrice, arriva il cliente e dice di fare una cosa, lei dice: guarda, questa cosa in questo modo non si può fare, si può fare quest'altra. No, guardi, io lo so che si può fare. Così sono diventati tutti intelligenti, sono diventati con i link alle fake news, alle stronzate che leggono. Non serve più essere laureati. Allora, ti devo raccontare del mio barista, scusami, vai, questa te la devo raccontare. Dove non dove vivo adesso, dove vivevo prima, c'era questo barista che, te lo giuro, io non ho mai conosciuto una persona così, no? Io mi sveglio molto presto la mattina, quindi lui apriva alle 5:30, io alle 6 sono lì a prendere il caffè. Ogni mattina, cioè io arrivo, no? Partiva prima politica internazionale, no? No, ti spiegava un po', no, l'ingerenza della Germania nell'UE, no, sai, le solite cose che tu non si aspetta di sentirsi spiegare. Da fare di regale, sì, ok. No, poi passava alla politica interna, no, ti spiegava come lui avrebbe risolto i problemi di questo paese in 5 semplici mosse, ovviamente ogni volta. Poi potevamo aver parlato di tutto, dal bullismo al complesso di Edipo, alla crisi economica, a qualsiasi cosa, al scioglimento dei ghiacci, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine la soluzione per lui era sempre sparare sui gommoni, no? Cioè, e la cosa che più mi faceva girare i coglioni, che dopo avermi ammorbato per 20 minuti con cose che non gli avevo chiesto, mi porta il caffè e faceva cagare. Cioè, ma veramente questa cosa qua, io proprio non... Cioè, l'unica cosa che era di sua competenza fare il caffè non la sapeva fare. Però tutto il resto lo sapeva, scusa Gianluca, pure tu, quante cose. Era occupato a studiare. Sono esigente, lo ammetto, sono un po' troppo esigente. Pure tu che pretendi, scusa. C'è, era occupato... C'è il barista che ti illumina, mo vuoi pure il caffè che è buono. A studiare all'università della vita. Aveva chiaramente sbagliato mestiere. Ragazzi, c'è i brividi comunque, ragazzi. Vabbè, sentite, facciamo una cosa, ci ritorniamo, magari focalizziamo bene magari un tema. Questa questione dell'immigrazione è una cosa che ci interessa e magari una volta ne parliamo, sempre insomma, magari in maniera come ci viene, insomma, però magari un po' più strutturata, perché in effetti, come hai detto te, è un tema complesso, è un tema globale, ma vorrei anche affrontare un po' quello che è cambiato nel nostro paese negli ultimi 10-15 anni da questo punto di vista, insomma, al di là del discorso semplicemente legato ai proclami, alla propaganda, roba del genere, anche fattivamente. Ti faccio una domanda che io faccio spesso a molti, perché appunto l'immigrazione non è un problema, è un fenomeno, no? Sì. Io c'è una domanda, lo faccio a molti proprio come provocazione, cioè, ma che fine hanno fatto gli albanesi? Negli anni 90 sembrava l'invasione barbarica, sì. Cioè sembrava che fossimo veramente tutti, c'era la fine della civiltà, no? Poi non è che sono spariti, si sono inglobati in un sistema sociale, no? E per questo io non capisco l'isteria che c'è dietro questo tema dell'immigrazione. No, è un fenomeno storico che c'è sempre stato e veramente va affrontato in maniera normale, né in maniera ideologica né in maniera esterica, e per favore con un po' di senso dell'umorismo, che cazzo quello in particolare. Sì. Senti Michele, c'è vedo Girasolo ha scritto una cosa. No, niente. Vabbè, ma qui gli ascoltatori ormai vanno per conto loro. Comunque okay, io perfetto. Credo che ognuno di noi possa avere un'opinione personale su qualsiasi argomento, senza meno, soltanto che bisogna essere consapevoli di sapere e non sapere tutto e eventualmente essere disponibili a cambiare opinione, correggerla, ad ascoltare chi ne sa di più, insomma confrontarsi in maniera seria. Utopia, delle utopie. Beh, d'altronde come chi era quel filosofo greco che diceva io so di non sapere, cioè, Socrate. Bravo, Socrate. Cioè, non mi veniva, mi ricordavo la frase ma non mi veniva. Bene, io ringrazio Antonio. Grazie Antonio, ci hai aperto degli orizzonti che era tempo che non frequentavamo. Come ho detto con Michela, dal 2010 abbiamo affrontato tante storie, abbiamo raccontato tante persone, tanti reportage, tante situazioni, però poi per un periodo di tempo avevamo un po' come perso un po' il filo da questo punto di vista. È arrivato Antonio che ci ha aiutato, insomma. È arrivato Antonio e ci ha portato un sacco. Vota Antonio. Un sacco di personaggi, un sacco di storie che comunque non finiranno qua. Credo che c'è ancora molto da raccontare. Poi ci coordiniamo, raccontare. Esatto. No, quindi ringrazio Gianluca. Oh, scusa Antonio, vai. No, dico, mi avete salvato già diverse serate, quindi è stato un piacere. Ma veramente. Tu sei il benvenuto. Saresti uscito a prenderti il coronavirus. Madonna, che cazzo. Ti abbiamo salvato la vita. Runtime. Runtime è la tua casa, quindi quando vuoi tu bussa e saremo sempre qui. Io ringrazio e saluto... dandogli un arrivederci, perché insomma torneremo a Gianluca, perché veramente secondo me abbiamo raccontato un 5%, anche di meno, vero? Sì, c'è molto da dire. Ci vogliono più birre. Ci vogliono più birre, più tempo. Più tempo. Magari una passeggiata a Caserta quando ci sarà modo. Quando si calmeranno le acque. Siete sempre i benvenuti. Ma se ci fa entrare, perché noi siamo bianchi, non ci fa entrare. A casa mia magari ti faccio entrare in deroga, in deroga, in deroga, in deroga, grazie, con l'autocertificazione però vediamo. Ripingete un po'. Ma no, grande Renzo è un grande personaggio con uno spirito incredibile, veramente sono stato contento, era tanto che veramente volevo... siete molto simpatici. Grazie Gianluca, grazie. E vabbè, allora io vi saluto, però prima di salutarvi vi ricordo insomma che domani, ragazzi, domani alle 21 e questa volta è ufficiale, c'è il grande ritorno di un programma che non facciamo da tanto tempo e che è stato la pietra miliare, forse il top, diciamo, la nostra, il nostro programma ammiraglio per tanto tempo. È la colpa di tutte le colpe. È la colpa di tutte le colpe, sì. Anche se adesso loro che non l'hanno mai sentita si spaventeranno, però non vi fate... titolo inganna. Esatto, non vi fate ingannare al titolo, ma domani sera alle 21 torna Morti di Bestemmie, ragazzi, che è veramente il nostro programma per eccellenza. Che torna finezza. Con una fantastica programma, una fantastica puntata intitolata L'incontestabile teoria della testa piatta, ragazzi, non potete mancare, è una cosa che ce ne saranno delle belle, insomma faremo grosse risate, ma soprattutto maledire un po' di gente così. meglio teste piatte che teste di cazzo. Esatto, quello sono sempre d'accordo con te. E detto questo, io comunque ringrazio Antonio, ringrazio Gianluca, ringrazio Michela, ciao. Ciao a tutti ragazzi. Michela che ritorna sabato con Mono, ricordatelo. No, Michela ritorna il 2 giugno con il 2 Mono, giugno perché saltiamo domenica, ma torniamo il 2 giugno con Mono, l'ultima puntata di pomeriggio, e poi si passa direttamente al mercoledì sera, dal mercoledì 10. Non vedevamo l'ora. E alterneremo un mercoledì io con Mono e un mercoledì Alex con MDB Summer Radio. Ok, allora io salutandovi con Gianluca, raccontiamo e lanciamo l'ultima traccia che è Italiani, giusto Gianluca? Questa invece come nasce questa cosa? Niente, guardando i telegiornali, sono di quelli che tiene tutto dentro e la sera si sfoga sulla canzone, bevendosi una birra, rullando contro il telegiornale. Lo sai che questa è la canzone che no, in realtà tutte, ma io perché forse faccio parte della generazione, ma veramente a volte ascoltando mi sono sentito un po' un miserabile, perché insomma... E in realtà, cioè, nel senso, siamo questi noi e ci dobbiamo stare un pochetto. Grazie ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Grazie mille. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Piede a terra la mattina, sin dal primo sbadiglio, è una lotta senza tregua contro il resto del mondo. Siamo tutti in fila col biglietto in mano, passo dopo passo procediamo e sopportiamo, e non c'è niente di strano, e con un colpo di mano siamo parte di uno show che ogni giorno sopportiamo, e quindi fatti un inchino, si apre sipario, entra in scena la tua vita in uno straordinario, esibisca il documento, la marca da bordo, data di scadenza, primi premi da sballo, c'è solo da grattare che sei fortunato, e non vincere ma un cazzo che non è giornata. Italiani con la corda al collo, pistola alla tempia, la canna del gas, l'affitto, le tasse, i figli, l'università. Italiani alla fine del mese, prestando la moglie, poi via in ospedale, calcio gli amici in Sanremo, e un anno di fame per due giorni al mare. But who you know, if you know, no, nobody may say you can never go. No, Puma isn't protected by them, the law. So Puma is always out of the road. In terms of future, come to you, are out of the road. It's a karma with the polemics, they tax my with the polemics. It's a sitting with the polemics, immigrants are with the polemics. Canada, the Gaza is the fittest survival. Now I'm going places. to see many faces with different cases. I pass through offices to check out the files and understand the fact. I found I saw fake, so tell me who are the fuck putting all this pressure, destroying people's treasure. You wanna take a measure and hold on your possession and leave out of your position. So don't be like a fool and be rude. And be rude. Italiani con la corna al collo, pistola alla tempia, la canna del gas, l'affitto, le tasse, i figli, l'università. Italiani alla fine del mese, prestando la moglie, poi via in ospedale, il calcio, gli amici, Sanremo. Canna del gas.